A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai Davide che oggi a Torino qualche buon tempone ha pensato bene di trasformare la manifestazione del 1° maggio in una sorta di assalto alla polizia, come al solito. Hai visto? Sì, hai visto le immagini? No, questo ho visto. Oppure le hai saltate? No. Le ho viste, e se pensi che io in questo caso difenda i manifestanti, beh, questa volta mi dispiace, ti sbagli. No, devi chiamare Agnoletto. Se no, vuoi. Non pensavo assolutamente. Non pensavo assolutamente. Se ma vuoi se qualcuno che difende i manifestanti, chiami il signor Agnoletto. No. E vedrai che lui, come penso, io questa volta non li difendo. No, ma non volevo assolutamente che tu difendessi i manifestanti. Non pensavo assolutamente che tu ti mettevi da parte dei manifestanti violenti, non tutti. Ma ovviamente le solite minoranze, non c'è dubbio, che però diventano dominatrici. Questo è vero. A Torino il signor Ferrero, segretario di un partito che si chiama Rifondazione Comunista, e io dico e sottolineo ogni volta anche davanti a lui, esiste ancora un partito che si chiama Comunista. Cosa incredibile, come se esistesse un partito che si chiama Fascista. Dice: io faccio parte del partito fascista, cioè uno si chiama parte Comunista. No, vabbè, comunque lasciamo perdere. Esiste un signore che si chiama Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, il quale dice che con le manifestazioni noi diamo da mangiare alla polizia e dunque ci devono trattare bene. Però dipende, quando uno prende un bastone, come è successo oggi a Torino, lo dà sul braccio di un agente, insomma, deve trattare bene, si merita un bel colpetto, no? Che dici? Io inviterei le forze dell'ordine a pensare che siamo anche noi i loro datori di lavoro e siamo anche noi il nostro pane, perché se ci fossero meno manifestazioni ci sarebbe meno occupazione in polizia. Trattateci un po' meglio, non è il caso sempre di mettersi a manganellare e poi di aprire scontri, perché stamattina era veramente possibile evitare qualsiasi cosa di parliamo questo tipo. Di detto questo, parliamo di lavoro. No, questa qua è una teoria curiosa. Siccome ci sono le manifestazioni, allora noi diamo lo stipendio ai poliziotti. Se non ci fossero le manifestazioni ci sarebbero meno poliziotti. Ma ragazzi, ma di che stiamo parlando? No, delirio. Se non ci fossero le manifestazioni, la polizia verrebbe impiegata a fare cose più utili, magari, no? Beh, non c'è dubbio. A me pare un delirio. Combattere i terroristi quando ci sono i terroristi, a dare la caccia ai rapinatori, a presidiare le strade di notte, a stare ma magari anche ad aiutare una vecchietta ad attraversare le strade. Anche quello. Ma oggi mi preoccupo perché siamo un po' troppo d'accordo, però, Davide. Però comunque, vabbè. Per carità, non bisogna. Avremo modo per far battaglia. Non bisogna fingere mai. No, ma io questo penso. Ti ho detto, se vuoi difendere, devi chiamare Agnoletto. No, ma io perché Ferrero? Sei fissato con Agnoletto? Io non voglio chiamare Agnoletto. No, ma io voglio anche bene Agnoletto, sai. Ferrero, ancora la polizia ha bastonato chi contestava il PD. C'è da sottolineare una cosa, che il nostro amico Stefano Esposito, per chi non lo sapesse, per quelli che sono in viaggio, per la moltitudine del popolo della radio che non conosce ogni singolo senatore, cioè il senatore Stefano Esposito è uno a favore della TAV, treno alta velocità Torino-Lione, e per questo ogni volta viene minacciato eccetera eccetera, vive sotto scorta, l'abbiamo ospitato più volte. Si è presentato al corteo del 1° maggio, perché ognuno ha il diritto di fare il cazzo che vuole nella vita, e si è presentato al corteo del 1° maggio. Da quel momento in poi è successo l'inferno, è successo l'ira di Dio, assalto alla polizia, scontri, via fuori Esposito dal corteo. C'era un coro, senti il coro, fuori Esposito dal corteo. Ma signori miei, dov'è la democrazia? Siete democratici o no, cari amici che andate al corteo del 1° maggio? Vergognatevi! A me stesso! Fuori Esposito dal corteo! Fuori Esposito! Oh, Ferrero dice la polizia ha bastonato chi contestava il PD. E no, caro Ferrero, non è che si contestava. A parte che uno può contestare il PD e non c'è bisogno di essere bastonato, ma la polizia non ha fatto, non è che ha bastonato, è che quelli lo volevano ammazzare. A Torino il problema è stato che se le forze dell'ordine si mettono in mezzo al corteo e iniziano a bastonare quelli che giustamente dicono qualcosa contro il PD, certo non andiamo avanti. E quindi ho bisogno anche di rappresentanti delle forze dell'ordine. Ferrero, mi scusi, la fermo perché questo ovviamente è il commento che lei mi fa, ma avrei bisogno di rappresentanti delle forze dell'ordine. Io ovviamente dell'ordine. Dico la mia opinione. Certo. Signor Ferrero, il signor Ferrero, vabbè, lasciamo perdere, dai. Oh, il signor Lele Rizzo, che credo abbia qualche cosa in corso dal punto di vista giudiziario, ma noi ce ne freghiamo, ed è uno dei leader di questi notav. Lele Rizzo, te lo dico, l'abbiamo avuto anche qui alla Zanzara. Sì, l'abbiamo, uno dei leader della Scatasuna, centro sociale Scatasuna. L'abbiamo avuto anche ospite una volta qui alla Zanzara. Sì, sì, sì. Ha detto che la polizia è al servizio del Partito Democratico. Figuriamoci, la polizia è al servizio del PD. Tu ti rendi conto, no? Del delirio totale. La polizia si è messa al completo servizio del Partito Democratico, che rappresentava una piccola parte di questo corteo, facendoci caricare più volte, impedendoci nella maniera più storica possibile a Torino di entrare in questa piazza, con delle cariche in via Roma che non si sono mai registrate. Ah, vabbè ragazzi, io che vi devo dire? Oh, le strane teorie di Salvini, che sostiene, Matteo Salvini, sostiene che i siciliani, credo a Lampedusa, escono di casa e gli immigrati occupano le case. Cioè ci sarebbe questo problema a Lampedusa. Credo che si riferisca solo a Lampedusa, perché altrimenti sarebbe una follia. Cioè i siciliani escono di casa così a fare la spesa e si trovano le case occupate dagli extracomunitari. Non lo so, magari è vero, non lo so. Leggevo i messaggi su Facebook di chi sta guardando la trasmissione e c'è una Sicilia che sta gridando tutta la sua disperazione, che non ne può più, a cui entrano in casa la notte, a cui dormono nei letti, a cui rubano dal frigorifero le migliaia di persone che stanno sbarcando. Non si può far finta di niente. Questo è uno scenario, mi sembra, questo scenario della Sicilia che descrive adesso, con tutto il rispetto, mi sembra un po' mi appena, eccessivo. Guardi, mi ha appena scritto una persona che è uscita di casa e ha ritrovato casa sua nel Ragusano occupata, occupata da queste persone. L'emergenza occupazione di case. Siciliani, state attenti! Non uscite di casa! Presidiate le case, perché secondo Salvini potrebbe intervenire un extracomunitario e occupate le case. Figuriamoci se i siciliani, con il carattere che hanno, no? Si fanno occupare la casa da un extracomunitario, Parezzo. Cioè, qualche dubbio ce l'ho, cioè, perché lì le cose funzionano un po' diversamente. Cioè, se uno che conosco io, un mio amico che abita a Scicli, là da quelle parti, si trova un extracomunitario a casa, prende un fucile e spara a pallettoni così. Sì, ma senza neanche dire una parola, senza neanche giustificare, non sta lì a discutere troppo. Sì, non è che tutti i siciliani sono così, sono persone civili, però persone che conosco io in Sicilia reagirebbero insomma in malo modo. Capito? Non ho mai paura a farlo, sai. Bene, abbiamo già un ospite pronto, però voglio farvi sentire prima. Ma io pensavo che volessi aprire questa straordinaria puntata del 1° maggio con Castelvolturno. Che è successo a Castelvolturno? Che è successo? C'è un candidato del PD trans. Dopo lo Speravo sentiamo. Che fosse questo l'antroe. Dopo diciamo, sentiamo in diretta, ci spiegherà come mai quelli di Forza Italia lo vogliono fuori. Lui dice: io sono donna, dunque le quote rosa, le quote là sono perfettamente rispettate. Molto mentre bene. Il sindaco dice: no, tu non sei donna, vabbè. Molto bene. Allora, il signor Cecchi Paone, senti che slogan, non vuole che l'Europa sia un coito interrotto. Questo è il grande slogan di Cecchi Paone. Beh, è originale, diciamo. Berlusconi vuole correggere alcune storture e vuole fare addirittura dei passi avanti perché l'Europa non sia un coito interrotto come adesso, sia un vero agglomerato che porti il nome di Stati Uniti d'Europa, con l'elezione diretta del Presidente come in America. Cioè, aspetta, dice anche in Europa perché il coito interrotto sia pieno a pagamento, cioè dice proprio una cosa, una metafora sessuale. Cecchi, sei sempre il numero uno. Beh, io se vado lì per questo, cioè per insistere, come abbiamo detto prima, perché ci siano gli Stati Uniti d'Europa e quindi questo coito interrotto vada fino al momento del pieno appagamento, che è un vero e proprio Stato federale con 29 paesi che potrebbero anche aumentare. Allora io voglio pregare l'onorevole Pina Picerno Voglio pregare di non inventarsi mai uno slogan di questo tipo sull'Europa. La prego, lei è candidata. Non corriamo questo rischio. È candidata in Europa, mi raccomando. Non corriamo il rischio. Meno male, buonasera. Buonasera a lei. Allora, io ho molto polemizzato con lei nei giorni scorsi, in sua assenza, e finalmente possiamo confrontarci sulla questione degli e ora anche in sua presenza. Oh, meno male, sono molto contento, perché non è che voglio fare le cose. Dovresti chiederle scusa a questo punto. No, perché scusa? Che vuol dire? La polemica perché è... Perché ha mostrato uno scontrino e oggi alcuni, sì. Io non so se chiamarli, forse così introduciamo subito la questione, alcuni imbecilli, alcuni deficienti. Vabbè, quelli ci sono sempre. Diciamo semplicemente alcuni grillini, così che hanno fatto, che hanno detto, sotto la categoria, sempre sobriamente introduciamo il tema. Vabbè. Hanno detto che lo scontrino che era stato esibito dalla suddetta deputata sarebbe falso. Perché era stampato. Ma chi l'ha detto? Picerno, chi ha detto che è falso? Ha verificato pure. Ma lei? Ho letto dei commenti, perché parlavano appunto di uno scontrino fronte retro che sì. In realtà chiunque frequenta supermercati sa che in alcune catene di supermercati, per risparmiare l'altro la carta, viene fatto insomma normalmente. Quindi è la dimostrazione, come dire, che questi supermercati non sanno nemmeno dove sta collocato. Cioè i grillini secondo lei non vanno al supermercato? No, ma non so se erano tutti quanti grillini o no, ho letto dei commenti di questo tipo, ma vabbè. Chi frequenta i supermercati abitualmente sa che molti ipermercati lo fanno insomma già da tempo per risparmiare carta, insomma, sì. eccetera. Vabbè, ma questo insomma è poco interessante, insomma, poi anche lo scontrino, io capisco anche tutte le trovate dal punto di vista del marketing. D'altra parte Renzi ha detto Pina, vabbè, vive da sola, è stata anche una trovata elettorale, è stata un po' una trovata elettorale, diciamo la verità. Lo confessi. Non è nulla di tutto questo. Renzi l'ha detto, non è che ho detto io. No, Renzi ha detto Pina è stata brava a fare un'operazione di comunicazione. Appunto, è quella ha detto. Ma operazione di comunicazione significa appunto comunicare un fatto. Cioè, il fatto sono gli 80 euro che noi abbiamo reso finalmente visibili. Va bene, d'accordo. Fino adesso erano appunto l'elemosina, la manciata... la mancia, diceva qualcuno, elettorale. Ora abbiamo invece visibili questi 80 euro, sono qualcuno ci farà la spesa, qualcun altro ci comprerà, ci andrà a mangiare la pizza, qualcun altro ci comprerà delle scarpe o quello che gli pare, ma il punto fondamentale è che abbiamo 80 euro in busta paga dei 10 milioni di italiani. Ci saranno il 27 maggio, però io questo lo sappiamo, io sono convinto che con 80 euro due settimane di spesa uno non le fa. Cioè, questo è il punto fondamentale. Non è possibile, non è così, altrimenti uno viverebbe con 160. Lei è un noto viver. No, ma non è questo. No, che io non frequento. No, adesso non entri. Non è così la storia. La storia è molto semplice. Quando lei comunica che con 80 euro, che è quello che Renzi dà a una platea di persone, si può fare la spesa per due settimane, non intende, come dopo ha detto, il single, cioè la singola persona, intende chiaramente, diciamo, una famiglia. E dunque. Perché mi legge nel pensiero, evidentemente. Ma no, ma è così. No. Oltre a essere un bravissimo, diciamo, conduttore radiofonico. Ma questo, no, grazie, io, però... Io non ho mai inteso questo. E beh, però ho detto 80 euro. Quando uno dice 80 euro ci fa la spesa due settimane, e uno intende... E io ce la faccio due settimane, io citavo il mio caso concreto, io ce la faccio quello due l'ha detto settimane, dopo. E vabbè, quello l'ho detto dopo, ma è quello che ho sempre pensato, è quello che ho sempre immaginato, perché poi, matta, diciamo così, non sono, quindi so che cosa... Quali sì, sono. Ma si vive male con 160 euro al mese per mangiare. Malissimo, o no? Sì, ma lei, ripeto, c'è qualcuno che paga un chilo di fagiolini 80 euro al mese, lei, appunto, come dicevo prima, un noto viver. Ma io non c'entro niente, io spendo... Frequenta supermercati molto. Io frequento l'S Lunga Via Solari a Milano, adesso facciamo pure pubblicità. No, però, voglio dire, insomma... Io ho dimostrato con uno scontrino, quindi con una cosa molto semplice, ero andato la mattina a fare la spesa, ci vado ogni due settimane tendenzialmente. Sì, ma non ci si mangia, una persona. Io ci mangio, ma non è questo il punto. Pasta e patate, che mangia? Macinato, che mangia? Cose basiche. Io non voglio entrare in questa discussione che diventa anche un po' surreale, perché sulla lista della spesa mi sembra pazzesco. Io dico semplicemente che ognuno... con questi 80 euro farà un po' quello che ma quello è chiaro, quello è normale. A farci la spesa qualcun altro sarà e ci comprerà un'altra cosa, ma insomma la linea va e viene, gli 80 euro e due giorni che parliamo di quello, domani basta. siamo qui con il protagonista mediatico nel giorno del primo maggio degli ultimi giorni, perché comunque la si possa pensare, io l'ho criticata moltissimo, io critico anche gli 80 euro che per me sono, se non sono una misura strutturale sull'IRPEF eccetera, però non entriamo in questi dettagli, per me sono una roba all'Achille Lauro, se viene messa come bonus, come bonus per... io la penso così, che ma devo, non è un bonus però, Chiciani, sarà strutturale, però è un bonus, l'ha detto più volte, un bonus, ho capito, ma è una misura strutturale, non è una tassa strutturale, ma non è un abbassamento di IRPEF, vai, lasciamo perdere però Se ma vuole, lasciamo perdere. No, ma perché chi critica? Perché chi critica è un gufo, come dice Renzi? Cioè, perché ogni volta che uno critica, però, viene trattato come un benaltrista, come un gufo? Qui c'è un problema, però. Uno può criticare senza essere, avere addosso il timbro del gufo, sì o no? Guardi, il tema vero non sono le critiche, figurarsi, insomma. E cos'è? Il tema è che qui c'è un pezzo, un asse tra conservatori, tra i veri gattopardi della politica italiana, che sono i 5 Stelle da un lato e sì, le destre, Berlusconi, insomma, quella roba là che conosciamo da 20 anni, che vuole che cambi nulla. Cioè, Grillo è uguale a Berlusconi da questo punto di vista? Assolutamente sì, sono due facce della stessa cioè sono medaglia, gattopardi, no? Sono molto conservatori i grillini, le dice. Sono i veri gattopardi della politica italiana, dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta, sono diventati i guardiani della conservazione. E non hanno fatto niente. Lei mi sa dire una, mi citi una cosa? Beh, loro dicono che hanno fermato la cosa dell'articolo 138, hanno fatto diverse. Sì. Insomma, mi dica una cosa, a parte insulti, sceneggiate in Parlamento e sui tempi. Beh, sono all'opposizione, però hanno rinunciato a 40 milioni di euro di finanziamento dei partiti, finanziamento pubblico. Diciamo, gli italiani, che cosa hanno fatto per gli italiani? Vabbè, ma rinunciare ai soldi non è buono, rinunciare al finanziamento pubblico? Ma abbiamo no? rinunciato pure noi al finanziamento Beh, pubblico. Beh, no, non è guardi, vero. Il finanziamento pubblico, come lei sa, non c'è più. Non Nel c'è 2017 perché, non c'è più. Non c'è più per, grazie, diciamo, al Partito Democratico. Dopodiché, quando Grillo, sotto la spinta di Grillo. Dopodiché, quando la sfida è stata lanciata a Grillo su, per esempio, la cancellazione sì. dei costi della politica, la cancellazione di 315 stipendi di senatori, lei sa meglio di me che Grillo ha risposto di no. Perché dice che è un'abolizione finta quella del Senato, però effettivamente su questo devo dire la verità. No, su questo devo dire la verità, che Grillo ha perso un'occasione, perché il Senato... ma è vero! Luciani che ci dà ragione, siamo tutti più... No, felici. Io sul Senato l'ho detto. Secondo me il fatto che i grillini non vogliono l'abolizione del Senato, non tutti, ma la stragrande maggioranza, compreso Grillo, dicendo che è una questione di equilibrio, è una grandissima stronzata, io la posso dire stronzata, perché in realtà sono arrivati lì per semplificare, per invece in questo modo bloccano. Ma invece non fanno nulla. Però allora, poi il tetto dei manager. Perché dicono che ogni volta che lei va in televisione o anche magari in radio fa perdere 2-3 punti a loro favore? Molti grillini dicono: meno male che c'è la Picerno che parla, così ci fa guai. Ma che devono dire, poveretti? Insomma, è il loro modo di fare la campagna elettorale, cioè loro insultano soltanto e non sanno fare altro. Ma sono un po' fascisti secondo lei? Molto. Non lo so, Parenzo dice molto no, fascista. Ma nessuno deve mancare le attori mediatici. Quello che so è che non servono agli italiani. Non servono agli italiani. Quello che so non servono all'Italia, che insomma, è un bel paese che si merita. Ho capito, ma se prendono il 25% che sono tutti coglioni quelli che li votano? Guardi, ma vedremo quello che succederà intanto. Mettiamo, prendono il 25%, quelli che li votano che sono? Lei c'ha la palla di vetro. No, mettiamo che. Ma guardi, vedremo che cosa succede. Io quello che so è una forza politica di assoluta conservazione, che non ha voglia di cambiare nulla. Sì. E quello che so che è un Ma fatto... è tipo setta? Tipo setta? La paragonerebbe a una setta? Ma no, cioè io li sfotto grillologi, nel senso che io li chiamo grillologi, no, nel senso che c'è un guru, tutti quanti che seguono gli ordini di questo guru non identificano se in Parlamento. No, e poi insomma, non mi interessa definire, diciamo, che cosa sono. Io li prendo in giro perché appunto, insomma, la risposta più seria che gli si possa dare è appunto a proposito le chiedo una cosa, il deputato Tofalo, il suo collega Tofalo, insomma, è inutile tornare su questa cosa, però ci voglio tornare lo stesso, ha detto sei una velina, e questo l'aveva detto anche Grillo in realtà, come donna capolista, no? Però questa è la loro campagna elettorale. Poi ha scritto anche una cosa abbastanza grave, che è una cosa che cara velina, te come sei arrivata lì? Lo chiediamo a Franceschini, restituisci il malloppo agli italiani, che è meglio. Lo chiediamo a Franceschini, cosa vuol dire? Cioè, la dipinta come una sorta come amante di Franceschini. Io non ho ben capito che cosa volesse dire, gliel'ho anche chiesto, insomma, E Tofala come ha risposto? No, non ha risposto evidentemente, perché poi questa è la loro strategia, ovvero il venticello, no, della calunnia senza ragione, non sono mai capaci. Cioè io leggendo l'ho interpretato solo in un modo, ma non perché sono malizioso, perché citare Franceschini così, uno lo cita, lo chiediamo a Franceschini, vuol dire la terminologia è chiara su Picerno. Appunto, era molto allusivo, molto offensivo, tant'è che c'è stata una reazione che lei avrà visto, insomma, generale. Io dico a Tofalo, se hai qualcosa da dire, fallo così, almeno magari... Ma fallo a viso aperto. A viso aperto, se vuoi dire che la Picerno è arrivata lì perché è amante di Franceschini, dillo apertamente, così va in tribunale. Esatto, abbi il coraggio di farlo, ma purtroppo a questi Cruciani il coraggio gli manca. No, ma in questo caso devo dire che lei ha ragione. Perché se loro avessero il coraggio, o lo si ha o non lo si ha. Se uno ce l'ha il coraggio... Cioè se ha coraggio Tofalo che dovrebbe fare? Dovrebbe dire... Lo usa per cambiare il paese, per fare delle cose coraggiose, non per nascondersi dietro il venticello della calunnia, della diffamazione. Dunque Tofalo, vogliamo dire a Tofalo, se hai coraggio, di quello che pensi su Franceschini, sui rapporti Franceschini-Picerno, così almeno... Appunto, se avesse coraggio, non ce l'ha. Non ce l'ha. Parenzo, ti sento silente perché mi dai ragione su tutto stasera. Che succede? No, io di Tofolo conosco Lino Tofalo. Quello è Lino Tofolo. Era un attore bravissimo, veneziano. Lino Tofolo conosco. Sì, Tofolo. Come no. Certo, Lino Tofolo, certo. Senta, le voglio chiedere una cosa. Ma lei è un po' in imbarazzo di essere alleata di Scopelliti e di Cesa? Alleata al governo, poi in Europa sono cose diverse. Ecco, questo sì. Guardi, siamo alleati con Nuovo Centrodestra, che è il partito anche di Scopelliti. Io siamo impegnati in una campagna si sente in imbarazzo o no? Per cosa? Per essere alleata di un partito che ha signor Scopelliti, anche Cesa capolista alle europee, che è stato condannato. Ogni partito, non è che sono, come devo dire, ogni partito fa le sue scelte. Non si sente in imbarazzo. Il Partito Democratico fa le sue scelte. Questo noi lo sappiamo. Il Partito Democratico, abbiamo candidato 5 giovani donne capolista. NCD ha fatto le sue scelte, ha candidato, secondo me, residuati bellici, ma ognuno fa ovviamente le sue scelte, insomma, non posso... Cioè dovrebbe fare un po' più di pulizia, secondo lei? Non posso certamente entrare nel merito di scelte che competono appunto a un partito, anche se è alleato di governo. Ma che c'entra? Fin quando votano i provvedimenti che servono a cambiare questo paese? Ma dovrebbe fare un po' più di pulizia al suo interno, NCD? Da questo punto di vista? Io ho una linea, come sa, molto chiara e definita, e quindi io Scopelliti non l'avrei mai candidato. Manco al condominio, non l'avrei mai candidato. Penso che NCD abbia fatto un grave errore, tutto questo, insomma, problemi loro, valuteranno gli elettori. Qua bisogna prendere i voti, come lei sa, tante preferenze, quindi valuteranno anche gli elettori. E lo so. Vabbè, Parenzo, abbiamo chiuso, mi dispiace. Se dopo ci dà 5 minuti, sì, sicuramente, perché si può fare. Verso le 19:15 un altro paio di domandine. Siamo in buona stasera, mi sento piuttosto carico, non so perché il primo maggio è... Io me ne frego del primo maggio, lo sai, Parenzo, no? Lo immagini, no? Questo immaginavo. Io ho sempre lavorato il primo maggio, quando però potevo. Vedi, quando non era sabato e domenica. Le persone che lavorano con noi lavorano con gioia perché guadagnano di più, mi hanno detto. No, sì, guadagnano di più. Sì, certo. Sì. Quelli assunti, anch'io sì, quindi bene, loro festeggiano. Per me così, nessuno dovrebbe guadagnare di più il primo maggio, sai che questa cosa è una cosa vergognosa? È una vergogna questa qua. Il primo maggio è un giorno normale come gli altri, perché bisogna guadagnare di più? Non si capisce perché. Se tagliassero questa cosa, anche per me io sarei contento. Così facciamo risparmiare il paese, le aziende, tutti. Teorema di Parenzo, una variante dice che la presenza di Parenzo in trasmissione è inversamente proporzionale all'interesse che la trasmissione genera. Comunque è incredibile, Davide, cioè anche quando io sono d'accordo con qualcuno, quando sono d'accordo con qualcuno, nel caso la vicenda Tofalo Picerno, no? Anche quando sono esplicitamente dalla parte della signora Picerno. Ma chi è Tofalo? Questo dei 5 Stelle, no? Questo dei 5 Stelle, Tofalo Picerno. Vabbè, sì. No, anche in questo caso vengo criticato perché per le domande che ho fatto, ma tu ti rendi conto o no? Cioè io non mi stupisco. Ma questo Tofalo è veramente. D'accordo, ha fatto una cosa sessista, ha insinuato certe cose, ma voglio dire, no, da questo punto di vista sono dalla parte della signora Picerno. Ma quale? Questo qui è un poveretto, cioè, no, ho capito, ho capito, ma vabbè, lasciamo perdere, dai, che non interessa a nessuno. Non interessa a nessuno questa cosa. A proposito sempre di Twitter, Bruno Vespa un'oretta e mezza fa ho visto, scrive, sì, aspetta, stasera Porta a Porta Giulio Scarpati racconta i ricordi di una vita alla mamma malata di Alzheimer. Risponde uno degli amici tuoi, l'esercito di Parenzo. No, ecco, io non sono amici miei, io l'ho scritto anche su Twitter, non so chi cazzo sia questo, questi qua, cioè lo sento perché ogni tanto chiama la radio, ma non hanno nulla a che vedere con me. No, questo... certo. No, perché sennò... No, certo, diciamo, esercito di Parenzo non ha nulla a che fare. Allora, vi sta praticamente sconfessando. Beh, io non ho mai chiesto di fare nessuna iniziativa di allora, tipo. Allora, esercito di Parenzo, con tutto il rispetto... Ma che cazzo glieli racconta a fare che tanto non si può ricordare una fava alla madre Giulio Scarpati? Beh, fare una battuta di una proprio. Sì, bastante, devo dire la verità, io ho detto avete stupida. Esagerato e mi hanno detto proprio tu dici che avete esagerato. Beh, ragazzi, però io non è che faccio le battute o non è che dico che non si può raccontare una madre malata di Alzheimer perché non si ricorda una fava. Cioè, io questo non lo dico. Magari dico cose peggiori, però esprimo opinioni anche in maniera forte, però questo ve lo dico. Non raccontate le cose a vostra madre se è malata di Alzheimer, non parlategli nemmeno, tanto non capisce. Amici miei, non lo dico questo, eh. Vabbè, comunque. Su Twitter ci sta tutto. La cosa che mi sorprende è l'amico Bruno che dice: che risponde, sì, questo. Quello che mi commuove di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, cioè rivolto a noi, è la garbata, sensibile attenzione ai sentimenti altrui. Allora io dico: caro Bruno, guarda, che in questo caso so che non è facile l'esercito di Parenzo, distinguere Parenzo quando uno mette insieme i nomi, le cose, eccetera. Capisco, per carità, che non sei malato di Twitter come me o come altri, e dunque. È difficile qualche volta orientarsi in questo mare magnum, ma no. Però non siamo noi che abbiamo questa risposto. Volta non siamo noi, cioè non c'entriamo. No, non c'entriamo nulla, non abbiamo risposto in quel modo e devo dire la verità, non risponderemo mai qua, anche perché insomma, sarebbe una cosa negativa. Anche se uno lo può pensare, io non ci ho nemmeno pensato quando ho letto questa cosa, no, di Vespa, devo dire la verità. Cioè non è che ho pensato, no, non si può parlare, è inutile che racconta, però. No, ma è una battuta di pessimo gusto fatta da questi qui che usano del mio nome. Ti stai dissociando, ti stai dissociando da questi. Ma io da sempre mi dissocio da questi qui, figuriamoci. Vabbè, comunque. Questo qui non so neanche chi sia io. L'esercito di Parenzo, adesso sarà... uno, due, no, se è di più. Esiste anche l'esercito di Cruciani, tu sai chi è, chi si nasconde. No, non lo so. Comunque, Bruno Vespa pensa che l'esercito di Parenzo sia Parenzo. No, ecco, la cosa strana è che Bruno Vespa si mette a litigare con l'esercito di Parenzo. Questo mi pare una cosa un po', capito? Cioè, ma no, pensava di litigare con te in realtà. E per questo che io ci ho tenuto a spiegare che sono. Allora, dillo, caro Bruno. Caro Bruno, io ogni tanto scherzo sul tuo plastico, scherzo sulle tue cose. Questo che c'entra. Scherzo sulle tue interviste, Cruciani mi critica quando io scherzo su certo, te. Assolutamente. Sì, però quello io lo rivendico. Mentre di questa fregnaccia, battuta di cattivo gusto, fatta da questo sedicente esercito di Parenzo. Che stai rinnegando. Ma perché non mi rappresenta per niente? Adesso li blocco anche su Twitter, guarda, adesso li blocco anche su Twitter. Ridagli costa tosse. Ringazzo che ormai è tutto finito. Non li bloccare, dai, su questo vuoi bloccare l'esercito di Parenzo su Twitter, dai. Lo blocco. Ma no, dai, esagerato questo, dai. Blocco. È un comunista cornuto di merda. Questo chi? Parenzo? Solo no. Questo. Ah no, d'accordo, ma solo questo. TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Primo maggio i sindacati incalzano il governo, basta tagli e annunci, ora fatti e risorse per occupazione e sviluppo, tensione a Torino con gli antagonisti. Dopo anni di battaglia gli ex operai della Miroglio in provincia di Taranto riaprono per il primo maggio le porte della fabbrica chiuse dal 2009. La preoccupazione di Napolitano, quest'anno più che festa è allarme, servono soluzioni coraggiose e innovative, Poletti sul Job Act, andiamo avanti. L'Italia non si cambia dall'alto e in un mese, dice Renzi. Contro la disoccupazione, credito più facile e meno burocrazia. Scontro tra nuovo centrodestra e Forza Italia. L'annuncio di Marina è per Alfano la paura della fine di una storia. La replica, ragli inutili e fastidiosi. Sindacati di polizia divisi sull'applauso agli agenti condannati per la morte di Federico Aldrovandi. Alfano, nuove regole sui fermi. E l'economia cinese supera il gigante americano. Hong Kong ricorda intanto la strage di piazza Tiananmen e chiede più diritti per gli operai schiavi. e il conduttore? Ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. Oh, è da sottolineare, caro David, ripetuto per l'ennesima volta, che l'ascoltatore di prima è un genio totale, quello. Quale? Di è il conduttore? È il conduttore? Quello lì, ma non abbiamo il numero di questo, scusa. Sì, vabbè, certo. È il conduttore? È il conduttore? Sì. Io vorrei sapere, le scarpe, andate a vedere sul profilo se avete tempo e se avete soldi, se avete uno smartphone. Non è che tutti hanno lo smartphone, diciamo la verità, non è che tutti hanno lo smartphone. No, no. Sicuramente ce l'hanno quelli che sono andati al concerto del primo maggio. Tutti sono muniti di smartphone. Beh, vabbè, ma quelli si quelli che stanno dalla parte dei lavoratori. Anche a poche lire, che quelli sì, che no. Sì. Ma quelli che sono lì sono. Gli smartphone non si prendono a poche lire. No, ma sono a sentirsi un concerto, magari questi, Allora, vorrei le scarpe che hai twittato. Cioè le scarpe che hai messo là, cosa pensate di queste scarpe sinceramente? Che sono delle scarpe agghiaccianti, cioè delle scarpe no agghiaccianti, questo... di più. A chi appartengono? Sono curioso, a chi appartengono? No, sono di una mia amica che è venuta a trovarmi a casa e di cui non... Ma è una roba indecente, ma scusa, ma perché... può diventare questo... Ma scusa, ma l'hai reso pubblico tu, mica è colpa mia, non te l'avrei chiesto. L'ho messo su Twitter. L'hai messo su Twitter, l'hai reso pubblico, è uguale, la stessa cosa. L'hai messo sulla piazza mediatica, un paio di... Mia, sono di una mia amica comunque. Sono di una... Non diciamo il nome, anche se dovresti dirlo, ma ti vergogni di dirlo, ma non lo... No, perché non so se lei mi ha... Non ti ha autorizzato, d'accordo. Tu hai twittato la foto di io due... Io ho detto, mamma mia come sono brutte queste. No, non l'hai detto, ha detto cosa pensate di queste scarpe sinceramente? Sì, ho detto guarda, per me sono bruttissime e lei mi ha detto no, non è vero. Dico vabbè, allora guarda, metto sulla piazza di internet e così sulla rete e giudica la rete, ho detto, giudicherà la rete. E se la rete giudica male che fa Grillo in questo caso? Che fa Grillo in questo caso se la rete giudica male? E lì si butta tutto, anche la persona, non solo le scarpe, tutto, la rete ha deciso. Lo fanno ovunque, anche in Germania. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Comunque, il voto a queste scarpe che ha messo Parenzo di una sua amica su Twitter, andate a vedere, il mio voto è 2, cioè sono una roba, cioè una roba che non si può, cioè non si può descrivere, sono le scarpe luccicanti. Cioè quanti anni ha questa tua amica? Eppure questa è importante. Qualcuno ha oddio, se voglio glielo chiedo. Cioè una quarantina ce le ha. No. 35, quanti ne ha? No, molto meno. E quanti ha? Che frequenti? Minorenni? Adesso glielo posso dire. Frequenti minorenni? Alla radio mi chiedono quanti anni ha l'amica delle scarpe. Che cos'è? Devo dire? No, te la posso passare? Sì. Chi è? Perché chi è questa qua? Topic... Aspetta, vabbè, ok. Passamela, posso dire il tuo nome? No, si chiama Rosalia. Rosalia. Ma che è italiana? Sì, sì, buonasera. Sono italiana. Buonasera, Rosalia. Quanti anni hai, Rosalia? Sono Vittoria. Sei Vittoria. Quanti anni hai, Vittoria? 28 anni. Frequente minorenni, Parenzo, una cosa impressionante. 28 anni, cioè, una cosa pazzesca. Cioè. Vabbè, 28 anni. Capito, queste scarpe qui sono agghiaccianti. Cioè, è una roba. Ma è una roba. Ma io le metto a posto. Ma come mai metti queste scarpe? Andatele a vedere tutti, le scarpe di Rosalia, 28 anni, frequentatrice di casa di Parenzo, personaggio che diventerà ormai un mito, una leggenda. Rosalia, 28 anni, vabbè, ottimo, 28 anni. Ma tu di chi sei amica? Di Parenzo o della compagna di Parenzo? Di tutti e due. Cioè, però principalmente tanto. Della compagna di Parenzo. No, anche di Parenzo. Sì, dopo però sei diventata amica. Sì, dopo. Beh, dopo. Certo, perché l'età quella è, cioè, no. Sei diventata amica dopo, vabbè, comunque 10 anni di differenza, 28 anni indossi queste scarpe molto da teenager, no? Hai visto? Molto da sono teenager. Giovane. Hai una bella voce romana, vabbè, comunque adesso non si può fare niente in radio, non ci si può nemmeno intrattenere in una conversazione così, perché siamo alla radio in diretta, così, radio di Confindustria tra l'altro, ecco, vabbè, stiamo parlando delle scarpe della signora Rosalia, ma è un nome falso o un nome vero? È un nome falso. Ah, no, vabbè, ma non ci puoi coglionare così, dai, come si chiama, come ti chiami? Vittoria, che bello, Vittoria, detto alla romana, proprio quello slang romanesco, Vittoria, con due tipo accentate, Vittoria, che porta delle scarpe oscene, ha 28 anni, ha una bella voce, però io non la conosco, amica della compagna di Parenzo, spaccato familiare delle 19:28. Ciao, vedi grazie. Che minchiate che dite. Sì, lo so, diciamo un sacco di minchiate. Ciao, ti do un bacio sulla fronte. Ciao, un bacio a tutti. Ciao. Davide? Sì, piange per le scarpe. Vabbè, non sono stato particolarmente violento nei confronti di questa tua amica, no? Non ho sentito la conversazione perché stavo guardando i risultati di questo sondaggio lanciato in rete, quindi non so che cosa. Il mio voto è 2 a queste scarpe, però bisognerebbe vederle poi live. Anche, soprattutto il piede, come sai, io sono un amante. Feticista dei piedi. Come ce li hai i piedi? Scusa, fai una foto adesso su Twitter in cui metti solo i piedi senza scarpe. Beh, adesso sì, la signora Vittoria deve mettere i piedi su Twitter, perché a questo punto voglio vedere i piedi. Devi torturare le mie amiche. Aspetta un attimo che vedo se... Intanto, in attesa dei piedi di Vittoria, qui alla Zanzara 24, radio di Confindustria, in attesa dei piedi, in attesa dei piedi, pubblicità. Ma che cazzo di argomento è? Zanzare, yeah, fanno male, ma lo fanno, yeah, per amore. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Sei ancora a casa, Emo? Non ci importa se il tuo sangue è rosso blu, dolce amaro nota blu. Sono arrivati sti piedi o no? No, non credo che ci arriveremo. Mamma mia, però. Oh, le persone, guarda, veramente quando. Ma tanto non è riconoscibile. Signora Vittoria, amica tua, voglio i piedi su Twitter. Qual è il problema? Scoprisse questi piedi. Adesso proviamoci, dai, così gentilmente, proviamoci, senza fare pressioni. No, ma qualche pressione dalle scarpe. No, dalle scarpe ai piedi. Comunque, parlando di cose serie, oggi. Queste sono serissime perché ho ricevuto già in 2 secondi 20-30 messaggi solo sulla vicenda scarpe di Vittoria. Te lo dico. E lo vedo anche per cui... io, diciamo, non pensavo scatenasse un dibattito simile, diciamo. Allora, alcuni manifestanti, un gruppo sostanzioso di manifestanti oggi a Torino ha dato ha proferito la parola assassini, ha pronunciato la parola assassini rivolta agli agenti del caso Aldrovandi. Cioè, rivolta agli agenti in generale, assassini, sì, capito? Sì. Questo è il clima. Creato da chi, però? No, amico mio, no. Creato da nulla. Da chi? Da che cosa? Creato da quell'applauso, dici tu? Beh, guarda, adesso qui se parliamo seriamente per fare una polemica vera e non soltanto legata alle scarpe sulle quali torneremo, ma voglio dire, sicuramente quell'applauso ha rovinato l'immagine della polizia, questo è sicuro, cioè quel sindacato di polizia con quell'applauso ha in pochi minuti distrutto... Intanto oggi un manifestante con una mazza di legno ha colpito un agente, con una mazza di legno, capito? È ovvio che non questi qui. Sì, ma non è perché l'applauso della polizia scatena uno con una mazza di legno, amico mio, no, dai. No, questo non c'è nessuna relazione tra queste cose. Ma se le istituzioni, e io la polizia la metto tra le istituzioni di questo paese, una parte della polizia pensa questo e addirittura applaude persone condannate per omicidio, come sono stati quegli agenti, questo è chiaro che poi la simpatia nei confronti delle forze dell'ordine non può essere così alle stelle, no? Comunque vogliamo far risentire la teoria del signor Giovanardi di ieri sera, che praticamente ha paragonato l'azione della polizia nei confronti di Aldrovandi a quella che la polizia ha fatto nei confronti del signor Preiti, che è il tizio che ha sparato, no, contro un agente di polizia il giorno del giuramento del governo Letta e poi è stato immobilizzato per terra da carabinieri. Sentiamo. Loro si sono comportati esattamente come i carabinieri che davanti a Palazzo Chigi hanno fermato Preiti, cioè i carabinieri davanti a Palazzo Chigi hanno preso Preiti, quello, insomma, lo hanno immobilizzato come i manuali di polizia e carabinieri dicono si deve immobilizzare una persona. Io vi pongo questa domanda: se quel signore che ha sparato una volta bloccato per terra, come dice il dottor Tiene, avesse fatto l'infarto, mi scusi, quei carabinieri diventavano assassini in quel momento? Non ci importa se il tuo sangue è rosso. La madre, se chiama assassini gli agenti condannati, insulta. Prima del morso di la madre, sì. E tiene questo atteggiamento di insulto, se dà degli assassini o dei delinquenti a questi, è abbastanza chiaro che i poliziotti e i carabinieri si trovano un moto di solidarietà. La morte per infarto, non per le percosse subite, eccetera. Si sta parlando di Aldrovandi. La sentenza dice che tenuto in quella posizione può capitare un infarto. Allora, io ho detto in Parlamento e lo dico qua. che il capo della polizia, il capo dei carabinieri, il ministro degli interni dicono come i poliziotti e i carabinieri devono tenere immobilizzati. Antonino da Milano, buonasera. Antonino? Buonasera. Dica. Allora, io volevo intervenire sulla questione degli 80 euro, premesso che io non sono un beneficiato, anche se non di molto, nel senso che guadagno... Quanto guadagna? 1.800 non prendo una mazza. Esatto, prendo poco. No, non prendo una mazza, non in generale, non prendo una mazza degli 80. No, non prendo una mazza per quanto riguarda il bonus di Renzi, però volevo dire... che secondo me con 80 euro almeno lo vedo su di me, io sono 48 anni, non ho famiglia, quindi vivo per i fatti miei, sì. 80 euro non dico che sono due settimane, però sono una decina di giorni di cene normali, senza organizzare feste con amici, quindi capisco che possa avere un impatto. Ma sì, ma certo, per un single, per un single, certamente se lei vive da solo, 80 euro, certamente se uno va al supermercato a fare la spesa, compra la pasta, la carne, possono durare, diciamo, magari non due settimane, dipende dal tipo di carne, dalla qualità dei cibi, eccetera. Una famiglia non ha di che parliamo. Però due persone anche solo con un figlio, due persone anche solo con un figlio, 80 euro non bastano manco per una settimana. Diciamo la verità, cioè. Però dico, se guadagni 1.500 euro al mese, stai sicuro che no, ma ti pesano, una ma pesano, non è che ti ha risolto la vita, però ti dà una bella mano, ma no? Pesa tutto 80 euro, per carità, è una bolletta, magari sono un paio di bollette della luce nei casi, sono una bolletta di un telefonino, appunto. Va benissimo, ma che c'entra, ma pure Achille Lauro quando distribuì i pacchi di pasta andava bene, perché uno si piglia la pasta e se la porta a casa, cioè, ma voglio dire, è continuativo, a me sembra, poi per carità, quello è continuativo, certo, perché è strutturale, dicono, mi sembra comunque una iniziativa abbastanza concreta. Se avete un secondo, vi volevo chiedere anche un'altra cosa circa la nuova legge elettorale, se no licenziate. Quale legge elettorale, scusa? Quella che... Non se ne parla più, non ha capito bene qual è l'andazzo. Non se ne parla più, lei ha mai più sentito parlare di Italicum, c'è tutto bloccato. Dai tatticismi, no, facciamo prima quello, facciamo prima però, quest'altro, il Senato. No, ma dica, per carità, dica. No, dico, mi stavo chiedendo, mi sembrava che diciamo il Porcellum fosse... criticato tantissimo, in particolare per la sua impossibilità di garantire governabilità, visto che c'è insomma il Senato con una rappresentanza fatta su base regionale e la Camera fatta su base nazionale. Ma io dico, se si va verso una Camera unica, non è che dal punto di vista della governabilità anche il Porcellum col suo premio di maggioranza bello pingue garantirebbe più che governabilità? Quindi mi sembra un po' una discussione sterile. Grazie. Francesco da Ravenna. Francesco? Sì, sono qua. Dica. No, volevo intervenire in merito ai 40 euro. 80 se vai. 80 euro. Degli 80 euro. Al limite, scusi, 80. Sì, 80 euro. No, al di là delle due settimane di spesa o non di spesa, però noi siamo in due in famiglia, arriviamo pelati a fine mese, con 80 euro a testa, sono 2.000 euro all'anno. No, 80 euro a testa, chi l'ha detto? 80 euro, 80 euro non è 80 euro a testa, 80 euro a chi ha uno stipendio fino a 1.500 euro, a partire da 8.000, credo, in quelli che hanno i redditi da 8.000 a 24.000. Io e mia moglie siamo messi così, a fine anno abbiamo fatto due conti, sono circa 2.000 euro. Ci cambia la vita, ci portiamo in vacanza i bambini in campeggio a Marina di Ravenna, cosa che avevamo smesso di fare, adesso ci andiamo, ci compriamo l'abbigliamento a cui dovevamo rinunciare, per il resto sbarcavamo il lunario ma non risparmiavamo un euro, così ci cambia la vita. Sì, vabbè, per carità, ma io non sto dicendo. Io non sto questo. Dicendo che lei pensa che la sua vita sarà cambiata dal fatto di avere 80 euro al mese in più. Perché... Sì, ma non ho capito. A parte che allora, quelli che hanno un lavoro autonomo, le partite IVA, gli incapienti, quelli che non sono dei lavoratori dipendenti, ho capito che sono gli sfigati di turno? Cioè, quelli che non sono dipendenti sono più sfigati degli altri? Cioè, quelli che hanno una partita IVA guadagnano 1.500 euro al mese. Ma questo è il solito problema italiano. Ma non è, ho capito. Sì, è il solito problema italiano. È il solito problema italiano, che sono privilegiati sempre quelli che hanno lo stipendio fisso. Ma non è che privilegiati. Allora, secondo sto ragionamento qui, cosa facciamo? Non aiutiamo nessuno? Sì, però si farà un po' alla volta, no? Un po' per uno, un po' di qua, un po' di là, alla fine sperando di riuscire ad aiutare tutti. Se lei ci crede. Vabbè, comunque. No, non è che ci credo. Ma lei che cosa votava prima? Sono curioso di questo. Francesco, lei che cosa votava prima? Io? Sì, che cosa ha votato fino adesso? Ho votato sbagliando Berlusconi per tanti anni. Vabbè, ma questo anche l'ultima volta Berlusconi? No, no, no, l'ultima volta no, assolutamente. Grillo, chi ha votato? L'ultima volta, no, l'ultima volta non ho votato. Vabbè, Francesco, la domanda è questa: questi 80 non euro che arriveranno in busta paga, la delusione era troppo. D'accordo, questi 80 euro che arriveranno in busta paga a lei e a sua moglie, sì. E alla fine l'hanno convinta a votare Renzi alle prossime elezioni europee, per esempio? Mi hanno convinto a votare Renzi per l'atteggiamento positivo che ha Renzi. Per la concretezza, dice lei, no? Vabbè, no, perché allora le ha dato 80 euro in più, dai, perché non le ha dato 80 euro, dai, le ha dato 80 euro. Concretezza, no, no, no, per l'atteggiamento positivo. Sì, vabbè, l'atteggiamento positivo e l'intenzione che io ritengo, mi passi il termine, sana. Va bene, ho capito. Francesco, capito cosa voglio dire. Ho capito. Aurelio da Modena, Aurelio. Buonasera. Buonasera, è conduttore? Buonasera. È conduttore? Prego? È conduttore? No, non sono conduttore. È conduttore? No. È il conduttore? È il conduttore? Aurelio, dai, dica. No, volevo intervenire per la discussione che avete fatto ieri. Sì. Volevo dire a quella persona che non riesco a decifrarla come sia, a Parenzo, sì, che se Giovanardi è fuori dal mondo perché prende le parti della polizia, per fortuna che c'è la polizia, sì, Parenzo è fuori dalla galassia a dire che hanno fatto bene a dedicare una stanza. Ah, quello è gravissimo quello che ha detto, secondo me lì è gravissimo quello che ha detto, gravissimo Parenzo, gravissimo. Perché? Devi ripetere, devi ripeterlo, devi dire a voce alta, così ti attirerai tutte le ire degli ascoltatori che sono incazzatissimi su questo. Ho ricevuto un sacco di mail. Tu hai, sì, sostenuto ieri qui alla Zanzara, no, trasmissione nota nel panorama internazionale, tu, sì, hai sostenuto una cosa, sì, nazionale e internazionale, sì, perché così è, nazionale e internazionale, che hanno fatto bene a intestare una stanza, sì, della Camera dei Deputati al signor Giuliani, dillo. Sì, no, ma ti dico di più, quella lì fu chiaramente una decisione politica, perché tale, vabbè, fu, non sta, presa, sì, ma certo, che era, se no, certo che era politica, altrimenti non è, politica, non è che l'ha fatta Gesù Cristo. È una cosa assurda, una cosa assurda che si possa dare spazio a una persona che se ne va in mezzo alla piazza bendato per non farsi riconoscere con un estintore in mano per fare del male alla forza pubblica. Ma Parenzo, se ne rende conto, allora, quel Parenzo del cavolo? Allora, i fatti sono completamente diversi. No, i fatti sono esattamente come l'ha detto l'ascoltatore. Un conto è il caso Giuliani, un conto è il caso. No, ma tu hai detto una cosa, certo, è diverso. Tu hai detto, hanno fatto benissimo a intestare un'aula della Camera al signor Giuliani. Capisco quello che quando Rifondazione Comunista propose, che tra l'altro capitò anche la madre, peraltro, alla Camera o al Senato, non ricordo. Hai detto che hanno fatto bene, punto. Non stare a spiegare, hanno fatto bene, secondo te? Sì, presero una decisione politica, perché quello ma certo che è una decisione politica, ma che deve essere? Per forza che è politica. Quello che è avvenuto a Genova, inutile riaprire il dibattito, è stato, come alla fine, c'è un episodio di macelleria sociale assoluta. Dopodiché, ma che c'entra l'intestazione della piazza, uno che c'è un estintore in mano contro un carabiniere? Dopodiché è chiaro che quel signore con l'estintore in mano lì era in una situazione tutto particolare, ma ci sono carte processuali che parlano. Ma che c'entra con l'intestazione di una sala alla Camera? Emiliano da Firenze, dai, su. Anzi, Aurelio, rispondi a Parenzo. È diventato un simbolo per una parte politica italiana. Va bene, ma stai dicendo delle cose scontate. Aurelio da Modena. Ho già parlato. Lo so, ho capito. Aurelio, risponda a Parenzo, così chiudiamo. No, io non rispondo a Parenzo, perché Parenzo assolutamente ha delle idee che sono al di fuori di quello che io posso concepire. Ho capito, male. Però se non rispondi, non rispondi. Vabbè. È soltanto una cosa, in base a quello che lui sta dicendo, si vede cosa sta succedendo nelle piazze, perché se diamo ragione ad una persona che va bendata in mezzo alla piazza a fare del male alle forze dell'ordine, e poi anche gli si dà anche una benemerenza, è naturale che tutte le altre persone si sentono in diritto di manifestare e di dire che la forza dell'ordine a parte che quello è morto, poi gli hanno sparato, per cui in quel caso la reazione fu, diciamo, la pistolettata. Non riapriamo questa cosa. Emiliano da Firenze. Emiliano, ciao. Sì. Ciao a tutti. Dimmi. Sono un coglione grillino convinto. Sei un coglione grillino convinto, che vuol dire? Perché l'hai detto tu che siamo tutti coglioni. Chi l'ha detto? Scusi, io non ho detto nulla del genere, lei ha capito malissimo. Era una domanda che all'inizio ho fatto alla Picerno, ha capito? Era una domanda che ho fatto. Secondo lei quelli che votano Grillo sono dei coglioni? Questo gli ho detto. Allora io sono un coglione. Ma allora, io non ho detto Picerno, che sono coglione, ma se lei non capisce quello che dico, non ci posso fare niente. Io tutto penso tranne che quelli, anche perché mi dovrei dare del coglione, perché ho votato Grillo alle ultime elezioni, siccome non mi do del coglione, fino a prova contraria, cioè ogni tanto me lo do, ma non per avere votato Grillo alle ultime elezioni, per cui non posso averlo detto, ha capito? Benissimo. Poi per il resto viva le canne. Viva le canne. Bene, questo qua ha accoppiato una stronzata che ha detto al fatto che viva le canne. La cosa mi preoccupa, Parenzo, però, perché molto, siete ben confuso, cioè, ragazzo. Vabbè, Emiliano, grazie. Dov'è? Ciao, cioè si fuma le canne. E il conduttore? Qui dobbiamo andare a recuperare il cane di Annarella, te lo dico subito, Parenzo. L'obiettivo è quello di recuperare il cane di Annarella. Perché Annarella ha un cane? Annarella ha un cane che si chiama Piccolo. Piccolo. Ah, questo non lo sapevo. Cane Piccolo, e pare che l'abbia perso. Pare che l'abbia perso. Dunque, facciamo un appello qui pubblico dai microfoni della Zanzara, trasmissione che ha scoperto il fenomeno Annarella e l'ha portato alla ribalta nazionale, internazionale, mondiale. Annarella, ridatemi il mio cane. Senti, a Giovanò, ieri quando sei passato che mi ha detto che la tua voleva il cane, e il cane poi è venuto appresso a te, tu ci hai messo il coso al collo e te lo sei portato a casa, per piacere riportami quel cane, che se no te maledico per tutta la vita, capito? Tu lo sai dove stava, e sai, e tu poi te riconoscerò senza meno, perché c'ho chi mi sguinzaglia, hai capito? Vedi un po', rimandamela a casa. Dove sei, cagnolino? Dove sei, cagnolino della signora Annarella? Riportatelo a casa, è nero, marrone, a 14 mesi, si chiama Piccolo. Magari potrebbe pensarci Riccardo da Roma a fare qualcosa di utile. Stai tranquillo con Riccardo da Roma, che tra oggi e domani te lo risguinzaglio. Potremmo sguinzagliare Riccardo da Roma nella ricerca del cane, almeno fa qualcosa di utile per la nonnina. Ti dica un po' trambiere. Ma manna la foto segnaletica, poi vediamo se me lo riporti il cane. È nero e marrone, hai capito? È di mezza taglia. Si chiama Piccolo. Si chiama Piccolo, è questo che hai capito? Un anno c'è, cioè 14 mesi. Ma io dico, chi è che sottrae un cane a una signora di oltre 80 anni? Vabbè. Ma è proprio crudeli, bisogna. La crudeltà pazzesca. Abbiamo con noi, grande ritorno alla Zanzara, Zingara mia, come stai? Ciao! Zingara mia! Carissimi ragazzi, io sto bene, voi? Allora, benissimo. Ne sta sparando ultimamente. Devo dire, di ne sta sparando di cose, sì, ne sta sparando, ma siamo in campagna elettorale. Io devo dire la verità. Ho un sogno che coltivo, cara Iva, un sogno proprio che tengo dentro di me. Che mi voglio ripresentare a luglio a Strasburgo, a luglio in quel di Strasburgo, e non voglio nemmeno pensare, io non ci sia. Esatto, cara Iva, perché sai che mi mancherebbe tantissimo quell'atmosfera. Amore, mi sa tanto che invece non mi troverai, lo so, le corna, ma mi sa che è così. Te vogliono fregare. Amore, lo sai anche tu, Lo so. Sono sola, confido tanto nella gente, del tuo aiuto, ma non ho tanto adesso in paradiso. Poi ogni tanto tu dici le sparo. Ma le devi sparare. No, non le devo sparare, non le sparo perché sono in campagna elettorale. No, ma le spari, se mi perché sei così. Io le sparo. Perché sei così, perché sei così, non fingi nulla, diciamo, no? No, quasi mai. Allora, purtroppo per te, però per fortuna per noi ogni tanto. Senti, voglio dirti una cosa, ma come mai sto Berlusconi non te dà una mano? Perché? Diciamola tutta, preferisce altre persone, diciamola chiaramente, già l'altra volta preferisce. Non so se è così, poi sai, l'europeo ognuno deve correre con le proprie gambette, le mie sono lunghe, tornite forte, forse lui pensa che io possa andare in giro da sola, non ho aiuti, non è così, di torta, dai, non è così. Neanche né materiali né morali. E va bene, ma io sai, sono abituata. Non io, sei più giovane, sai, non sei sempre più giovane. È, i corvi volano a schiere, le aquile sole. E io sono sola, pazienza. No, ho capito, però preferisce, come dire, appoggiare ragazze più giovani, diciamo la verità. Vabbè, non è, quello fa anche bene. Sì, ma non... Voglio dire, diciamo, i famosi ticket con cui si va avanti in queste elezioni europee, cara Iva, non ti vedono dentro. Perché? Come mai? Ma adesso a parte gli scherzi, no, che dai, scherzi, io invece sono fiducioso, io faccio la mia battaglia. Vabbè, ma quello è solo, io faccio forza IVA. Forza IVA, che c'entra Forza IVA? Che c'entra Forza IVA, scusa? Vabbè, Forza IVA, mi incoraggio da sola. Ah, vabbè, da e sola. Faccio la mia campagna elettorale, vado in giro come sempre nei mercati, sì, avvicino le persone, sì, ho dei progetti che vorrei, sì, realizzare finalmente, vabbè, ho quello, imparato la lezione, e vabbè, non lo so, se avverrà, sarò felicissimo, sì, però, di chi è potermi impegnare, quali sono altrimenti pazienza, non però, devo dire grazie a nessuno. No, scusa, però voglio dire, IVA, diciamo la verità, quando Berlusconi parla non pubblicamente, dice alla gente, io voglio che passino certe persone. Degli ma non altri è vero. Sì, come no, come no, come no, lo e dice. Quali dai sono ste persone? Ma lo sappiamo, dai, lo sappiamo tutti, dai, nel collegio dove sei tu, chi vuole che passi, dai. Vabbè, dillo tu, perché non lo dici? Toti Ronzulli, questi due sicuro, gli altri non gliene frega niente, diciamola tutta, o no? Sì, è vero. Oh, è vero. Cioè, pensa se io prendessi più voti della Ronzulli. Che dramma! Sarebbe un dramma pazzesco. Allora vengo lì e festeggiamo con lo champagne davvero. Stappi e con lo champagne. Anche con lo champagne. Stappi lo champagne. Ma come Berlusconi appoggia questi due? Cioè, perché dice no, io vabbè, voglio. Perché sono giovani, amore. No, avanti, vuole che in questo momento il giovanilismo, avanti giovani, giovani sono tutto. Cioè, ma tutto, cosa dice in giro ai coordinatori regionali, ai coordinatori, che cosa dice in giro? Votate Toti Ronzulli, questo vabbè, dice. Il partito, non tanto lui, il partito dice di appoggiare Toti e Ronzulli. Ma questo qua, poi, perché il partito dice così? Tutti, perché il partito dice così? Una discriminazione nei confronti degli altri, non dovrebbero dirlo, scusa, o no? Non dovrebbero dirlo, questa hai ragione, dovremmo dire votiamo Toti perché insomma in fondo è il nuovo che avanza, il resto arrangiatevi un po', insomma, no, ognuno parta sulla linea di partenza, a lei, via tutti. Ma beh, io guardo, non voglio fare polemiche, questa, non voglio essere, ma no, devi fare polemiche, cazzo, dopo dico delle cose che non devo dire. No, devi dire le cose frega che non devi dire, no, devi dire le cose che non devi dire, come questa cosa dell'Ebola, ma mi hanno accusato di fare del terrorismo, io ho semplicemente detto e lo ripeto che gli immigrati portano le malattie, casi di Ebola in Italia. No, dici, ho detto che recentemente ero in un ospedale, non ti dico quale, parlando con un capo infermiere, una persona seria, mi ha detto, signora, non ne parla nessuno, ma questo è un dramma vero. Cioè, gli immigrati portano le malattie, tu dici? No, perché, come no, diciamo la verità, in Africa c'è. Cosa? Dai, e poi in Italia sono arrivate malattie nuove, vecchie, ma che si sono ripresentate, cioè, tipo, come la tubercolosi, come il colera, e che cacchio? Cioè, Ebola, tubercolosi e colera, questo è il pericolo che c'è. Ma io non ho detto che in Italia ci sia l'epidemia. No, hai detto che c'è un pericolo. Però l'Italia non deve assolutamente prendere sotto gamba questo problema, che è gravissimo. In Guinea c'è in corso un'epidemia, la gente viaggia negli aeroporti seri come a Parigi, gli aerei che arrivano dall'Africa vengono sottoposti, tu lo sai, a minuziose, No, voglio dire, tu sostieni che gli immigrati possono portare malattie gravissime, Ebola. Ma io non ho detto che non bisogna accogliere gli immigrati. Vabbè, ma io sono una cattolica, il Papa dice che bisogna accogliere, ha ragione, però controlliamoli, curiamoli, vediamo se hanno delle malattie serie o infettiamo tutti i nostri figli e nipoti, eccetera eccetera. Allora, addirittura minacce di morte mi hanno detto. Cioè, che t'hanno detto? Che t'hanno detto? Ma dove siamo? Ma in che paese viviamo? Che t'hanno minacciato, dai. Allora forza IVA e arrivederci. Ciao. Chi? No, fermo, dove vai? Ma dove vai? Io? Dove vado? Vado a casa. Ma come vai? Che te ne vai? Sei appena arrivata, che te ne vai? Sei impazzita. E mica ti ho criticato io, certo, devo dire la verità, cara Iva. No, tu mi vuoi bene, perché lo so che mi volete bene. Sì, ti voglio bene. Io sono rimesso in questa avventura disperata perché credo in Berlusconi, perché credo in questo partito. Ma se prima dicevi che era finito Berlusconi, a un certo punto hai detto che era finito. No, io non l'ho mai detto che era finito. Hai detto che eri delusa. No, ho detto che era, c'è stato un momento. Sono profondamente delusa, questa avevi detto. Poi ti eri innamorata di Renzi, poi adesso Renzi non ti sta più bene, pure te hai fatto delle giravolte, amica mia. Amica mia, altro, non è vero. Altro che Zingara. Altro che Zingara. Ho detto che mi piaceva, era carino quando ero sindaco di Firenze, il fatto che fosse venuto qui ad Arcore a visitare Berlusconi. Io dico qui Arcore perché abito vicino a lui, non perché frequenti Arcore. Ma senza Berlusconi potresti immaginare. Senza allora, Berlusconi potresti Renzi. Mi piaceva questo. Poi dopo ho detto mi ha deluso, ma non perché non creda io mi auguro che lui possa realizzare tutto quello che dice, è in campagna elettorale e butta giù delle palle, ne racconta di cotte e di crude, però a me la delusione più grande, chi di etica si vuol parlare, stranone. Il giorno che ha detto io mai mi siederò sullo stranone di Letta, non prenderò mai, vabbè, non prenderò lì... mai presidente, lo so, lasciamela dire, presidente del consiglio se non eletto da, ti è caduto, dal popolo, lì il giorno dopo suonava la campanella. Oh! Lì ti è caduto, lì ti è caduto. E lì mi è caduto un po', ragazzo. Ti è caduto, Ma non comunque... per questo io ce l'ho su qua, anzi, ma per l'amor di Dio. Ma però diciamo la verità, senza Berlusconi voteresti Renzi. Diciamola tutta. Senza Berlusconi, sai che io avrei voglia di fare un partito mio. Va bene, quello per carità, ne abbiamo già avuti tanti. Il partito dei vecchi, di quelli accantonati, allontanati, gli anziani, che invece possono ancora dare tantissimo. Con fede, magari con fede, no? No, fede te lo tieni te. Fede è berlusconiano, se io vado via da Berlusconi, che non andrò mai via da Berlusconi, vado con Renzi, naturale. Ah, vai con Renzi, beh, certo. Naturale, vado con i giovani, dove vado? Con i vecchi. Certo. Scusa, preparati allora, preparati. Un attimo solo, torniamo con Iva Zanicchi, che intanto dopo ci... Io voglio sentire una bella zingara però, proprio una cosa classica oggi, il primo maggio, una zingara cantata da Iva Zanicchi. Proprio la voglio sentire stasera. Siamo come lei, siamo come lei. Ora è evidente, Davide, che da quando ho detto che sono feticista dei piedi, che sono amante dei piedi, mi stanno mandando le foto dei piedi di qualsiasi tipo, no? È evidente. Dovresti dico stare più attento alle dichiarazioni che fai, caro il mio assessore. Ma togliti la viva voce intanto, sennò sento male, eri in viva voce. Proprio tu in viva voce, o in una stanza vuota, non so dove sei, perché si sente una specie di vuoto totale. Allora, no, non ho capito. Ah, ecco. Cerca di cambiare stile di parole che usi, caro il mio assessore. Assessore. Assessore. Perché assessore, scusa? Perché ho visto che il signor Sgarbi, candidato nuovamente sindaco a Salemi, sì, si è proposto come assessore in quel comune. Sì, è vero, lo confermo, mi ha proposto come assessore a Salemi, poi bisognerà vedere. E lo farai pure magari? No, non credo che posso farlo. Assessore a che cosa? Al traffico, visto che è la cosa che mandi di più. Assessore a che cosa? Al traffico, sicuro. A quello, è l'unica cosa che puoi fare. No, però devo dire che sarei molto onorato, non so se potrò ovviamente, ma mi impegnerò assolutamente per la città di Salemi, anche, no, da Milano. Potresti fare l'assessore al traffico. No, no, però devo dire la verità, sono molto onorato che Vittorio Sgarbi mi ha proposto, è stata una delle sue prime proposte come nuovo candidato assessore sindaco di Salemi, come assessore della sua giunta, della giunta Sgarbi. Guarda, questa cosa mi sembra assolutamente raccapricciante, ma non per te, non perché sei tu. Potresti invece rilanciare e dire che accetti, ma vorresti fare l'assessore alla mafia. Poi ti spiego come. Questo è bello, però. Assessore dovresti, alla mafia, stupendo. Sì, tu dovresti proprio chiedere l'assessorato alla mafia, cioè fare uno sportello in cui una volta al mese vai lì, sì, sì, e ricevi, sì, le richieste della mafia. Mafia. Bellissimo, questo è bello. Io sono assessore alla mafia. Allora, però, questo è un regalo che voglio fare a Iva Zanicchi. Guarda, Iva. Iva? Sì, dimmi. Allora, ti faccio sentire, valla a guardare su internet, lo spot elettorale del tuo collega Cecchi Paone. Senti che spot elettorale ha fatto, che è una cosa raccapricciante e dire poco. Raccapricciante e dire poco. Aspetta. Per amore di Papa Francesco. E c'è la fotografia di Papa Francesco. Per amore di Marco Pannella, e se vede Pannella. Per amore di Steve Jobs, e si vede Jobs. Per amore di Sofia Loren, c'è una foto di Sofia Loren giovane. Per amore di Silvio Berlusconi, vabbè. Per amore di mia moglie, c'è la moglie col gatto in mano. Per amore scrivi Alessandro Cecchi Paone. Scusa, mi sovviene una domandina, cara Iva. Ma non era frocio il signor Cecchi Paone? Ma dai, guarda, a me è molto simpatico. Dai, Iva, non su. No, stavolta non si scappa. Per amore di mia moglie. Ma scusa. Amore di mia moglie. Ma doveva mettere un negro lì. Ma non è vero. Ma lui ha dichiarato che è anche omosessuale. Ma certo, ma beh, ha dichiarato. Una moglie. Ho capito, ma se uno fa il manifesto. Noi si dice in montagna dove è da Piggia e da Do, hai capito? Cioè, è a voile e a vapeur. Va bene. No. No, poi aspetta, com'è che questa cosa è da Piggia e da Do, che vuol dire? Cioè, lo prendi e lo dai. Vabbè, dai, come sei volgare. Beh, scusa, il dialetto non è volgare. Ma per farlo capire, male. Ma io l'ho detto anche in francese prima, Iva, l'ho detto anche in francese. Tu non lo sai com'è in francese, nonostante dovresti saperlo, perché ottima trasmissione, sempre la migliore. in farmacia, vado in albergo, je parle français. Ho capito. Allora, Je suis Catherine Deneuve. La, appunto, non sai un cazzo di francese, diciamo la verità, non sai nulla di francese. No, dai. No, lo capisco. Non sai e niente, lo dai. Ma dai, non essere così, signora. Se ti dico di sì, cosa vuoi che ti dica in francese? Dimmi, come si, che cosa ho cucinato stasera? Ce soir j'ai cuisiné le spaghetti all'italiano. No, beh, vedi che però in 5 anni piace, ma vuoi venire a dirla a me? A rubare a casa dell'altro. Dai, fammi uno spot. Ma che spot li faccio? Ma che spot, Michele? Che non ho i santi in paradiso. Ma l'abbiamo detto, non ho santi in paradiso. Più di questo che devo fare? No, io dico solo che aspetta dovrebbero... un attimo. Mi rivolgo lì. Posso dire che mi rivolgo? Ma non, ma non mica la cosa al tribunale elettorale questa qua. Iva, aspetta un attimo. No, va bene, non dico niente. Ti voglio dire una cosa. Sì. L'espressione che tu hai utilizzato prima, bellissima in dialetto, credo, delle tue parti. Sì. Romagnolo, esatto, no, Emiliano, non Emiliano specifico, Parenzo, sì. non insultare, significa in francese a voile e à vapeur. Sai cosa? Vabbè, quello è molto più raffinato. Beh, a voile e à vapeur, tu... vabbè, questa è un'altra roba. Voile... questo qui è da piglia da do, è un'altra cosa, è molto più immediato. Cioè, se secondo te c'è Chibone, così lo piglia da, cioè bisex. Scusa, io mio fratello vicino, com'è Antonio? Com'è? No, ma quello non è il dialetto. Com'è che ha detto tuo fratello? Da lele? Le bonda punte da culo. Che, molto... che dialetto è questa qua? Che dialetto è? vabbè, non traduciamo che poi dico quella Zanicchi, quella Zanicchi. Ma no, ma vabbè, scusa, io voglio dire una cosa, ma sì. Tu vorresti essere bisex? È bellissimo essere bisex, Iva. Cioè tu lo fai tutto. Ma magari avessi questi istinti. Io non ho niente contro. Purtroppo, guarda, io ho una certa età. Adesso ormai il sesso per me non cioè non vale più nulla. Non lo fai più. Male, ma sai com'è, no? Non lo fai più. Conta tantissimo, come si suol dire, la qualità e non la quantità. Per l'amor di Dio. Beh, la però qualità mi fosse, non mi sono mai, non ho mai avuto un'attrazione per le donne, lo stesso sesso, per le donne. Ma ci ha provato qualche donna con te? Grande simpatia per le donne, grandi amiche. Io vivo ci ha provato con te qualche donna? Però ecco, se sessualmente parlando, proprio mai. Ho avuto delle corteggiatrici quando ero giovane, ce n'era una simpaticissima che mi corteggiava, ma veramente tanto, e io dicevo guarda, proprio non senti, lasciami perdere, proprio non esiste. Mi fa schifo, e lei mi fa schifo. Ma le ha fatto giurare, ma casomai ti dovessi sì. Ricredere, giura che verrai con me, dice, guarda, te lo giuro, adesso lei è morta perché era vecchia. Ah, proprio è schioppata prima di lei te. Lei è andata prima di te. Mamma io mia, mamma convertita. Mia. Senti, hai visto che ho perso tanto, non lo so. Hai visto come se le danno di santa ragione Marina e Alfano? Marina Berlusconi e Alfano? Non hai seguito niente. Non è, guarda, Alfano non è carino. Non è carino. Signore, non è un signore. Non ha risposto male a Marina, molto male. Molto Marina male. È una donna davvero, adesso a parte gli scherzi, ti sono seria. Sì. E si è sempre comportata benissimo, sempre con molta discrezione. Si ha detto delle cose, voglio dire, nel suo pieno diritto di difendere anche il padre, voglio dire. No? E invece Alfano? E poi cosa ha detto contro Alfano? No, contro Alfano. E lui, sì. Ha tradito in fondo anche un po' se stesso. Poi ma pure tu con Alfano avevi detto. Io l'unica persona che ce l'ho un po' è proprio con Alfano. Ah, ce l'hai, se c'è qualcuno che ha ricevuto troppo, tanto, tutto, anche altre persone sì, che sì. Adesso le hai citate prima, tu. Ma lui veramente, ecco, non mi è piaciuto, ecco, questo suo modo di fare... E poi va bene, va benissimo, sai, per lo scrano, per la poltrona, si fa per di la tutto, visibilità, per essere potenti. Ma anche tu avevi detto che non ti volevi ricandidare e poi ti sei ricandidata, pure tu, Viva, dai, su. Vabbè, ma che cazzo, oddio, dacci una parola. Una parolaccia, vabbè, qui si può dire, sei dai. Incappata, scuso. Qui si può chiedo dire, scusa, dai. No, ma che chiedi scusa? No, noi diciamo di tre secondi. Detto anche a te, dico, guarda, sono in crisi, non lo so se mi ricandiderò. E poi ti sei ricandidata alla fine, su. E poi invece ho cambiato idea, voglio dire, cambia idea anche, non so, anche il prete all'altare, sbaglia, poi dice, vabbè, adesso continuo per la mia strada e vado. Comunque Berlusconi credo, andrà credo con... nella politica, vabbè. Però visto e considerato, scusami. Come hai detto tu, che io il 24 maggio non verrò eletta perché sono da sola con un cane. Sei da sola, Berlusconi. Berlusconi ti ha lasciato sola come un cane. Diciamo questo, la verità, diciamola tutta. Berlusconi ti ha lasciato sola come un cane. E diciamolo, no? Magari, magari, perché visto che lui ama tanto i cani, non sarei sola. Ah, dici magari fossi un cane. Magari fossi Dudu. Magari fossi Dudu. Tratta meglio Dudu di me. Esatto, esatto. Tratta meglio. Vabbè, questo domani tratta meglio Dudu di me. Va bene, dai, te lo concedo, vai. Che ne so, che ti devo dire? Che ti devo dire? Comunque, ragazzi, alla ricerca del super colpo, comunque io vi auguro tanto bene. Io non lo so, fate una cosa. Però guarda, quanto sarai più libera di parlare, promettimi questo, Iva. No, ma quando... io sono libera lo stesso. Lo so, però ogni tanto ti freni, giustamente, perché poi uno che fa la politica è esposto e come te si chiama Iva Zanicchi, eccetera. Se si dice che io mi freno. No, ti freno. Però certo. Certo, potrei dire anche altre cose. Dopo il 25 maggio. Il 25 di maggio mi ospiti e dirò delle cose, va bene. Brava, brava. Una cosa ancora, ma il vaffanculo che hai detto a quelli là della gabbia, agli spettatori, eccetera. Ma dai, come si fa pure te? È vero che io non lo posso dire. Però un artista come te, che dovrebbe, come dire, essere nei confronti del pubblico anche un po' smart, no? O no? No, guarda, io lì ho mandato a fanculo tre volte. Sì. Ho detto e lo rifaresti. E lo rifaresti. Vaffanculo, e poi ho rincarato e mi dispiace tanto. Gli ho detto e va anche a cagare. Perché? Mi auguro e spero che sia stitico, gli avrei anche augurato una cosa carina. Io l'ho detto perché, cioè, quando che... mi si tocca sul vivo, quando mi offendi, quando mi dai, mi incolpi di cose di cui io non sono assolutamente responsabile, se attacchi Berlusconi, il governo Berlusconi, che è stato la rovina dell'Italia e che questa azienda che poi sta chiudendo ora e sono tre anni che Berlusconi non governa e addossi a me la responsabilità e la colpa, e allora vaffanculo, te lo meriti, dire, te lo meriti. Quanto guadagni? Oh, ma vaffanculo, va. Te lo meriti. Stava e glielo ridirei ancora. Brava. Allora, io dico una cosa, perché tuo marito non riesce a cacciare quel dipendente, che quella cosa che hai detto lì? Che c'ha sto dipendente? Un fancazzista, un fannullone, ci vorrebbe Brunetta lì. No, vabbè, lui mi ha sgridato aspramente, mi ha detto cosa ti impicci nelle cose mie. E forse aveva. T'ha sgridato tuo marito. Però t'ha io sentivo che. Passamelo un attimo, voglio salutarlo, voglio salutare. Passami tuo marito un secondo. Questo qui è sempre in malattia, sta a casa sei mesi, viene a lavorare due giorni. Dopo dice che c'ha mal di testa, che c'ha dei problemi mentali, sta a casa altri sei mesi. Io ho detto, io Iva Zanicchi. L'avresti cacciato. L'avrei... figlio a calci in culo e a casa ci sta davvero. Senti, tu che sei ok, il prezzo è giusto. 80 euro per fare la spesa in due settimane, la Picerno è impazzita oppure... No, io ho detto di più, ho detto che con 80 euro si possono fare, in un mese, si possono fare due messi in piega, perché se vai in un negozio qualsiasi... Vabbè, ma che c'entra? E no, è che cacchio, costano 35 euro, ma se vai dai cinesi puoi fare 20 messe in pieghe, però rimani pelato come Yul Brynner. È d'accordo. Questo ci fai con gli 80 euro. Però possono essere utili, dai, adesso, a parte cioè, le battutacce. 80 euro, Renzi ha fatto euro, bene. Vai a fare la spesa. Renzi ha fatto bene. Sì, certo, se ti do... No, non essere così moderata, di ha fatto bene, su, diciamo. Ho detto che ha fatto bene, ma se tu me le dai con la mano sinistra, perché la sinistra è così umana, generosa, e con la destra me le ritogli perché mi aumenti l'età, però ha fatto bene. Ma con 80 euro che possono essere utili, io credo che... Tu come li spendi 80 euro? La spesa la fai 4 giorni, insomma. 4 giorni di spesa. Ma sì, certo, quella lì diceva vado a comprare il caviale non lo compri. No, vai e compri delle cose, bisogna scegliere, si va, insomma, dai. Vabbè. Lo facciamo tutti, anche chi fammi uno zingara, non ha, fammi non uno 80 euro, ma ne ha magari molti migliaia. Io vado a fare la spesa e guardo 3x2, 2x3, faccio tutte delle tu robe. 80 euro, 80 euro. Io 80 euro li spendo in una spesa normale in due giorni. Ma dipende cosa compri, dai. Ma certo. Dai, fammi una zingara, dai, ti prego. Oggi sono pazzo di zingara. Guarda, se tu mi garantisci, che te garantisco pubblicamente, io voglio Iva Zanicchi al Parlamento Europeo. Basta. L'ho detto, voglio Iva Zanicchi al Parlamento Europeo. Zingara. E che mi voterai? No, quello non lo so, quello io non lo... No, tu fai, allora non sei un amico. Non lo posso fare, non lo so, io perché non so chi voto. Perché lui è ma non so chi no? Però è comune, non è comunista, Parenzo, dai. Però non so chi voto, capito? Non so chi voto, dai. Vai con Zingara, ti prego. Amore, quanto sei. Così dicono, eccola, guarda lì. Ma sai cosa mi scrivono su questo Facebook? Che sei, a non leggerlo che sei, io. Che sei ma una... quanta cattiveria c'è in questo mondo, mamma lo so. Mia. Ah, a proposito, ti posso leggere un passaggio? Dopo mi fai Zingara. È un passaggio del libro che vogliono mettere come libro scolastico, anzi hanno già messo come libro in una scuola. Ah, è quello che ho letto, quella roba immonda sul sesso? Ficcò la testa fra le gambe di Mariani. Aspetta, guarda, ficcò... quello lì bisognava metterlo. Ma chi è che ha letto? È vero che è un insegnante che ha letto quella roba lì? No, è un insegnante che ha introdotto questo libro, sì. ma quella lì va mandata via, licenziata, ma non licenziata e non assunta da nessun'altra parte, deve fare eccola la fame, lì. Quella lì, te lo dico io. Addirittura la fame. Fatto con mio nipote, ecco un'altra che avrei preso a calci in culo in piazza, per tutta la piazza del Vaticano. Ficcò la testa fra le gambe di Mariani e si infilò l'uccello in bocca. Aveva ma uno... vergognati, aveva... ma vergognati, schifosa, dirlo a dei ragazzini di 13-14 anni, guarda per fortuna che non c'era mio nipote, sennò quella lì la sistemavo io, gliela mettevo io la gamba, lo so io, la testa, lo so io dove. Dove gliela mettevi la testa? Ficcò la testa fra le gambe di Mariani. Gliela mettevo, sai quei i tori? Ecco. Dove i tori? Cioè, beh, non ti preoccupare, hai capito cosa gli facevo fare dal toro. Cioè, che gli facevi fare dal toro? Gli scappava la voglia di parlare di sesso ai ragazzini di 13 anni. Cioè, la facevi inchiappettare dal adesso toro? Adesso ce l'hai fatta farmi dire delle robe che non avrei dovuto dire. Ficcò la testa. Fate bene, vogliamoci bene. Ficcò la testa fra le gambe di Mariani e si infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante. Ma se tu hai dei figli, tu sì, 8 anni, 8 anni e mezzo, come no? Una figlia di... beh, non ti fa schifo? Ma io non l'avrei introdotto in una scuola, però è un altro discorso. Vabbè, non in una scuola. Poi dopo puoi dire qualsiasi aveva cosa. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Invece di dargli un pugno in testa, Mariani lasciò fare. Jose lo inghiottì fino all'ultima goccia e sentì il suo sapore in gola per giorni. Il fatto si ripeté altre due volte, innalzandolo a livelli di beatitudine inaudita. Capito? A me fa schifo. Allora, quella cosa lì, dolciastra, io quella lì gli vomiterei in bocca e poi glielo farei ingoiare, il mio vomito. E con questo chiudo, vi do la buonanotte. Ma lei va a fare i servizi sociali con Berlusconi? Ma lascia perdere. Perché non dai. Va a fare i servizi sociali con per solidarietà Berlusconi? Ha detto Toti o ha detto una stronzata, Toti? Cos'è che ha detto Toti? Che tutti i candidati dovrebbero per solidarietà fare i servizi sociali. Tanto che ci vada lui che gli farebbe anche bene. Perché? Perché sì. Perché gli farebbero perché bene? Perché Toti è giovane, hai tanto, è un bel ragazzo. Perché gli farebbe bene fare i servizi? Perché è vicinissimo a Berlusconi, perché lui deve tutto a Berlusconi, perché lo sta innalzando, lo sta portando a livelli... Non ti sta simpaticissimo, mi sembra di capire. Non ti sta simpaticissimo. Mi Toti, mi sembra di capire. No, a me Toti invece è molto simpatico. Vabbè. Non ma perché devo dire queste cose? Dillo. Se Alfano non aveva il quid, lui invece lui ce l'ha, ecco voglio dire. Se ce l'ha, dici, se Alfano non aveva il quid, lui ce l'ha molto meno, dici, del quid. No, ce l'ha, lui è bravo, ce l'ha più no, di è intelligente, sa di politica, parla bene. Come sai mentire? È molto pacato, non si arrabbia mai. Come sai mentire non tu? Non si incazza, vedi come faccio io, che mi infiammo, poi mi sfiammo. Lui è una persona di classe. Zingara, dammi Zingara, ti prego. Dammi. Prendi questa mano. Zingara. Pace. Ti abbraccio, ciao. Pace, bene, buona serata, ciao amore, ciao. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Non è molesto il moschito. È bello che Brunetta quando dice questa cosa dice gli amici della Zanzara, così quasi no? Sì. E poi ci detesta però. Geniale. Allora pare che Berlusconi voglia fare un super... Sì, però bisognava dirgli qualcosa alla Zanicchi, perché sarà veramente sgradevole questa volta. Su che cosa? Su chi ha introdotto? Le parole che ha usato nei confronti di quegli insegnanti. Ma scherzi, ma ieri c'era questa testimonianza. Ragazzi, ma ognuno può avere la sua idea. La Zanicchi ha questa idea qui. E nei confronti di chi introduce un libro però. Nei confronti di chi introduce un libro che ha il passaggio, se vuoi te lo rileggo quel passaggio. Ma non lì. Lo voglio risentire. Benissimo. Perché non è quella l'essenza del allora... libro, lo scopo con cui gli insegnanti hanno fatto questa cosa. È fuorviante metterla in questo modo. Ho capito, sarà fuorviante, ma perché fuorviante poi? Guarda che sei incredibile, guarda, che tu... Ti confesso una cosa, ieri sera, dopo la trasmissione, mi ha telefonato, davvero, un importante, non posso fare il nome perché non so se vuole, ma un importantissimo amministratore delegato di una grande azienda italiana. Sì. Te lo giuro. Vabbè. E mi ha detto, no, devo farvi i complimenti per come avete trattato quell'argomento, perché io ad esempio sono in macchina con mia moglie, mi ha detto questo importantissimo amministratore delegato di una grande azienda italiana. Vabbè, ho capito. Per il modo perché quella telefonata di quella insegnante, di quella madre, ha spiegato l'essenza della cosa. Cioè, effettivamente, se tu continui a leggere quel passaggio unico ma del quel libro, passaggio lì, però, ragazzi, non possiamo essere in alcuni casi troppo sofisticati. Della scuola, pornografica, ma tu non puoi pensare che tutti sono sofisticati come l'amministratore delegato di questa azienda. No, cioè, spesso i ragazzi tagliano le cose con l'accetta. Se all'interno ma di un ma lui diceva bellissima la testimonianza di quella madre di uno dei ragazzi, che ha detto delle cose di buon senso, cioè diceva grazie agli insegnanti che ci accompagnano e accompagnano i nostri ragazzi a capire un po' come gira il mondo, per cui la questione della sessualità, la questione dell'omosessualità, ma, sono ma gli insegnanti non devono parlare di sessualità a scuola, certo, ma di che parliamo? I genitori non sanno che risposte dare, ma chi l'ha detto quindi... che non sanno che risposte dare? Ma non lo sai te che risposte dare? Io lo so benissimo che risposte dare da parte mia. Vabbè, ma io questo non entro nel merito mio, magari anch'io so che risposte spero dare. Per te, certo, ma magari non, poi lo vedremo quando sarà il tempo, ora è un po' piccola, quindi una ha 7 anni, l'altro 7 mesi, quindi voglio dire la questione si porrà quando si porrà, ma in questo momento invece quella che hai fatto sentire ieri, che era straordinaria, io chiedo se ci sono altre mamme all'ascolto di questo liceo, telefonate, liceo Giulio Cesare a Roma, telefonateci, ho capito, io parto da un principio, non c'è nessun bisogno, non c'è alcun bisogno che gli insegnanti adottino come libro di testo per un... Come non è così? Cioè che facciano un corso, secondo me è così, ma scusa, ma sarò padrone di avere la mia opinione o no? Io dico una cosa, non è il caso, cioè non è obbligatorio, non c'è scritto da nessuna parte che un insegnante debba introdurre in un corso, per una parte dell'anno, eccetera, il romanzo della signora Mazzucco, in cui si parla esplicitamente di amori omosessuali. Non è tanto le stesse cose, le possono tranquillamente apprendere. Non è che gli insegnanti sono necessariamente migliori rispetto ai genitori o ai compagni di scuola. Alcuni sono sì, bravi, altri sono delle capre. Cioè... La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Durante il telegiornale della 7 di Mentana c'è stato un intervento di Giovanardi, cioè Mentana ha chiesto a Giovanardi se confermava le cose dette alla Zanzara ieri. Giustamente Giovanardi ha confermato, ma le cose che ha detto Giovanardi sono le cose che ha sempre pensato Giovanardi sulla vicenda Aldrovandi. Cioè, ha sempre pensato che la condanna fosse sbagliata, che in realtà Aldrovandi non è morto per le percosse ma per altre cose, e effettivamente la sentenza in parte gli dà anche ragione, poi nella sentenza c'è altro, eccetera, eccetera. No, ma non mi pare una cosa così incredibile quello... Perché destano ribrezzo? Ma commento, a te restano di brezzo. A me non, io non ho nessun ribrezzo per le cose che ha detto Giovanardi. No, persone, a tutte le persone. Non è vero, non è vero. Non essere così conformista. Bene, non essere allora, così conformista. A me personalmente mi fanno ribrezzo. Ma perché evidentemente il signor Mentana ha ritenuto di dovergli chiedere conferma? Perché si riferiva probabilmente agli applausi. Perché nessuno ha mai applaudito un criminale. Questo è il punto. No, ma le cose non erano sulle... No, scusami, perché adesso che ci ripeto... Ma sugli applausi, abbiamo... lui è, come dire, si immedesima nel dramma dei poliziotti. Quei poliziotti del SAP. Sì. Secondo lui non devono essere cacciati. Secondo altri vanno cacciati dalla polizia, punto. Condannati per omicidio. Ho capito, certo che sono condannati per omicidio, sono non c'è dubbio. Sono stati applauditi, certo. Lui dice, non lo dice esplicitamente, dice io capisco, anzi l'ho detto anche, lo capisco quegli applausi. Capisco, vabbè, comunque sentiamo Mentana, dai. Ieri vi abbiamo letto praticamente in diretta le agenzie che riportavano le parole gravi pronunciate da un esponente della maggioranza di governo, Giovanardi, riguardo agli agenti e alla madre di Aldrovandi. Allora oggi, nel dar conto delle novità della giornata, siamo andati a verificare se in qualche modo su Aldrovandi Giovanardi avesse parlato troppo, andando troppo in là, facendosi slittare la frizione, come si dice nel linguaggio parlato, ma è restato sulle sue posizioni. Oggi Giovanardi ai nostri microfoni ribadisce parola per parola il suo pensiero. Nel caso Aldrovandi c'è stata una vittima, il povero ragazzo che ha perso la vita, ma anche 4 poliziotti che hanno pagato per quel loro errore colposo e che sono stati condannati, che hanno fatto il carcere. E quindi credo che adesso abbiano diritto, dopo aver pagato la loro colpa, a svolgere la loro attività senza essere continuamente criminalizzati e insultati. Ecco, la questione è questa: nessuno criminalizza o insulta, ci sono stati gli applausi che sono esattamente il contrario, ed è questo quello che è difficile far comprendere a chi non lo vuole comprendere, che così si ferisce ancora una famiglia che ha visto andar via un suo caro e non può sentir dire che chi è stato condannato in via definitiva per aver provocato quella morte va applaudito, anche perché questi casi scuotono le coscienze, il caso Cucchi è già stato citato, oltre al caso Aldrovandi. Vabbè, questo Giovanardi che ha confermato le parole dette qui alla Zanzara. 2027, Marcello, provincia di Udine. Buonasera, Cruciani. Allora, qualcuno mi accusa di essere moralista su questa vicenda del libro, no? Del libro introdotto nella scuola, il libro dove si parla di amore omosessuale, dove si parla esplicitamente di rapporti. Ma anche Parenzo un po' mi dà del moralista per questo. No, ti do del pruriginoso, non del moralista. Vabbè, uguale, dai. E allora, io, guarda, sono veramente la persona più lontana, come sai, dal moralismo su queste cose qui. Ma io ti conosco, infatti. Allora, mi sembra... E dunque, sono due cose molto diverse, però. Sono due cose molto diverse. Allora, la questione è questa. Non è che se uno è, come me, libertino... non moralista, libertario in molti sensi, eccetera, significa che lo Stato, la scuola debba autorizzare tutto. Allora si arriva all'eccesso che la scuola potrebbe anche autorizzare di farsi le canne a scuola. Cioè, no, allora, no, autorizziamo. No, ma sia, no, ma ho detto all'eccesso. All'eccesso si potrebbe arrivare anche a questo: no, che la scuola, siccome per insegnare come si fa, perché non insegna come si rulla una canna? Allora, scusa, abbi pazienza, scopo, si potrebbe arrivare anche a questo. La stai dicendo forte. No, ma non la dico forte, scopo, si capisce, scusami, così. Lo scopo di far leggere quel libro non è quello di insegnare ai ragazzi quella attività che tu hai illustrato nel testo. Non è quello lo sì, scopo. Sì, di fare un dibattito sull'omosessualità, sulle cose, di discutere, dai, in modo intelligente e sereno dentro una scuola. Intelligente che è un luogo e sereno. Di Beh sì, sì, intelligente e sereno, sì. Perché non è un posto governato, sì, cioè non è un posto che è governato dal Giovanardi pensiero. Vabbè, allora dove c'è la libertà, è un posto dove i ragazzi si possono confrontare liberamente sulle cose vere che ci sono nella società, tra sì. cui l'omosessualità, che non è una malattia. A scuola si confronta qualcuno sull'omosessualità, ma fammi il piacere, dai. A quanti scuola il confronto sull'omosessualità. Ma dai, su, no? A scuola. Sì tesoro, sì tesoro, perché quanti ragazzi, questo è molto serio, guarda, fammelo dire, quanti casi ci sono di ragazzi. E tu pensi che gli insegnanti possano sì. dire no, gli amori sono anche omosessuali, sì, ma sì. Scusa, ma che bisogno c'è di dire? Si può insegnare questa cosa, quanti ragazzi si sono uccisi perché sbertucciati per loro pochi, per loro per fortuna sessuale. Pochi, per fortuna sempre pochi. Sempre troppi. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa. Ma senta Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Vorrei dire alla signora che non andiamo in onda dalle 6 a mezzanotte, per fortuna. Quindi vorrei sottolineare. Però sarebbe bello fare dalle 6 a mezzanotte, Parenzo, te ne dico dalle 6 a mezzanotte. Pensa Parenzo come potrebbe trovarsi dalle 6 a mezzanotte in diretta. No, ma ce la fai, secondo te saremmo in grado? Non lo so, sì, un giorno forse, un giorno sì. Ma un giorno, il conduttore? Solo un giorno. È il conduttore? È il conduttore? Sei un genio totale comunque. Ma non hai voluto però parlare nel dettaglio delle storie di questo primo maggio? Sì, infatti ho accennato una sola volta al primo maggio, anzi no, non faccio sentire niente, c'avevo delle cose sul primo maggio ma non me ne frega più nulla. No, perché non me ne frega più nulla, perché è con noi un grande personaggio per la prima volta alla Zanzara. Ah, la Camusso? No, che c'entra la Camusso? Ma no, ti pare? Ma tu vuoi paragonare il personaggio che abbiamo adesso collegato Tremo. Alla Camusso? Alla Tremo. Camusso, amico mio, la Camusso. Angeletti, la Camusso. C'è. Angeletti, ma dico, ma questo qua, questo personaggio che abbiamo collegato, questi sindacalisti, ma adesso non mi fare espressare, non mi fare parlare in maniera volgare, cioè, è un grande personaggio, un grande critico musicale, un grande storico della musica, come vuoi che te lo dipinga? Ah vabbè, certo, ma io, a parte che sono amicissimo di un signore, tu sei sempre, amico. No, non di lui. Sei amico mai... di un amico, amico degli amici sei. È molto amico di un siciliano che è un mio medico di Padova. Cioè, Derelà, sei amico Derelato, diciamo. No, lui. Capito. Chi è? Paolo Isotta, buonasera. Ciao Giuseppe, allora ti comincio subito a dirti un proverbio napoletano: gli sfottuti vanno in paradiso. Ah, gli sfottuti vanno in paradiso. Hai detto, tu ti senti talmente sfottuto da noi che sei pronto al paradiso, eh? Sì, sì. Caro Paolo, come stai? Benissimo, e tu? Io qua combatto con Parenzo. Devi sapere questo. Qual è l'amico? Dimmi Paolo, aspetta. Voglio esordire in media stress. Cioè, allora, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Io amo i pazzi, anch'io appartengo alla categoria. Lo so, ma questo lo so io, che tu appartieni alla categoria. E ti dico subito una cosa, lo sai che mi ha detto prima al telefono Paolo Parenzo, questo lo posso dire perché, sì. Perché non è una cosa, come dire, privata. Mi ha detto, so che la tua trasmissione in televisione è durata una sola puntata. Sì. Proprio per questo mi piaci, ha è detto, ha detto Paolo Isotta. Mi piace perché è durata solamente una, ce n'è stata solamente una, poi ha chiuso tutto, è successo un casino. Cos'è che mi hai detto, Paolo? Sì, perché questa è la prova del suo valore, perché si sono messi paura. Beh, sono messi paura dell'inferno che abbiamo combinato, del caos, del caos non organizzato, perché sai, il caos si può anche organizzare, tu me lo insegni, no? Il grande caos. Senti, caro Paolo, io voglio sapere una cosa. Tu, sai Parenzo, se uno dice gay a Paolo Isotta praticamente diventa pazzo. Adesso, pazzo no, però... Mi fa tristezza, perché sai qual è la cosa? Dimmi. I gay sono dei ricchioni ideologici, tristi, che vogliono la consacrazione sociale. Sì. Io sai, praticamente, io mo ho 64 anni, quasi. Sì. Quando ero guagliona, quando ero 16 anni, a Napoli un ricchione si faceva in mezzo alla via. E capisci? Ma anche tu lo facevi in mezzo alla via, il ricchione? Io, beh, un pochettino sì. Un pochettino facevi? Come no, certo. Sì, perché capisci, sì. Cioè, che facevi? Le marchette, no? Come no, certo. Cioè, ti facevi pagare? Come, o certo, pagavi? Io? No, io pagavo, veramente. Ah, pagavi? No, io ho sempre preferito pagare. Quello è buono, devo dire la verità. No, perché vedi, c'è una cosa. Io l'eros omosessuale lo concepisco in una maniera molto animalesca. Cioè? Spiegami. E allora non mi piace fare amore. Amore lo faccio che è femmina. Ma l'eros omosessuale lo concepisco come uno sfogo degli istinti. Allora, pagando, tu non ti metti vergogna, perché non hai paura, non hai bisogno di fare l'innamorato. Puoi fare quello che ti pare, insomma. Puoi essere brutale, diciamo. Puoi essere brutale. Ma e cosa ti piace con i maschi? Diciamo, essere passivo? Vabbè, ma senti. Passivo o attivo? Me lo sono già dimenticato. Ah, già, perché ma 64 anni mica, cioè, non ti tira più. Scusa se te lo dico in questo modo così brutale. Ma... No, sai. Guarda, ogni tanto ci sono anche dei retour de flamme, però... Beh, retour de flamme è ottimo. Sai, sono sempre più rari. Sono rari, però a 64 anni... Io spero, Parenzo, tu che dici, a 64 anni che fine ho fatto? Cioè, no, tu non sono molto lontani, perché ne ho 47, dunque siamo 60... probabilmente morirai o facendo come Talk Radio, no? Come quel conduttore radiofonico che a un certo punto viene ucciso... per le cose che dice alla radio. Speriamo di no. Oppure morirai durante un amplesso, credo. Sì, non vedo altre. Non vedi altre soluzioni, dici? Non vedi altre fini possibili, insomma. No, non vedo altri destini. Devo dire che tra i due preferisco il secondo, però ammazzato così brutalmente all'uscita dello studio. Beh, però sarebbe bellissimo uno che entra nello studio con un'accetta, no? Ma magari ammazzano qualcuno al di là del vetro, qualche assistente, qualche tecnico, no, si sbagliano così, prendono l'accetta. Ma quelli vedono 1.500 euro al mese, devono anche morire per te, scusa, non ho capito. Muori tu, muori, quelli vedono 1.500 euro al mese. Paolo, dimmi, Paolo, dimmi. Allora, se non ti secca, no, perché? Vorrei portare il nostro discorso su un tema che bellissimo. Qual è? Dimmi. Devi sapere che io sono stato all'apertura del Maggio Musicale Fiorentino. Beh, Maggio Musicale Fiorentino, anch'io sono fisso, Sì, allora pensa che nel primo intervallo ho passato un quarto d'ora con una persona meravigliosa, il cardinale Bettori, l'arcivescovo di Firenze. Gay pure lui, no? Non lo so. Allora lui mi ha detto che era la sua prima esperienza wagneriana. Sì. E io ho detto: guarda, Eminenza, lei è cascata, è partito male, perché è partito con l'unica opera di Wagner che sia fondata sopra una metafisica atea influenzata da Schopenhauer. Sì. E invece gli ho spiegato che il tema... ho cercato di dirgli, insomma, lui è molto più intelligente di me, che il tema fondamentale di tutta l'opera di Wagner è la redenzione. Sì. E l'ultima opera, il Parsifal, del quale il secondo atto è stato... Ecco, ma perché mi stai dicendo sta cosa, Paolo? Scusami se ti interrompo. Perché? Perché voglio dire che abbiamo siamo convenuti a parlare del fatto del Wagner cattolico. Che è una cosa bellissima. Il Wagner cattolico. Scusa, ma tu sei cattolico? Hai voglia. Cioè, proprio fervente anche? Guarda, io ho il privilegio di avere la fede. Tu sei un ricchione cattolico, un ricchione con la fede, un ricchione con la fede. Beh, sì. Il mio intercessore è San Gennaro. Cioè? È il più grande santo del paradiso. Mm. È quello il cui sangue è la testimonianza del suo martirio per Cristo, che si scioglie 3 volte l'anno. Ma secondo te, io non ho capito, la Chiesa fa bene a opporsi ancora, tu che sei opporsi ai matrimoni gay? Io penso di sì. Vabbè, tu sei contrario, tu sei contrario, perché, sei contrario. Ma perché? Perché vedi, il matrimonio è un sacramento. Allora non si può diminuire il valore del sacramento che è stato istituito in un modo preciso. Io penso che la Chiesa faccia molto bene a riconoscere da un punto di vista civile le unioni dei ricchioni, dargli i conforti, anche dei conforti, oserei dire accessori. Cioè, ma in che senso conforti e accessori? Non ho capito. Che sono i conforti e accessori? La Chiesa, ci sono stati dei discorsi meravigliosi di Monsignor Paglia. Ma tu sei mai stato con un prete? Con un prete sei mai stato? Io no. Ti manca, diciamo, ti manca. No, mi manca e mi mancherà, e ti confesso che è una cosa che mi farebbe orrore. Ti farebbe, ma tu hai una, vuol dire, hai avuto sempre compagni, sei à voile à vapeur, come si dice in francese. Cioè... Io non ho mai avuto compagni, come ti ho detto. E nemmeno compagne? Compagni sì. Ti ho detto già che per me l'eros maschile è una cosa animalesca. Cioè, ma animalesca che vuol dire? Una cosa brutale da sodomizzazione? Sì, una cosa fatta senza il bisogno di riuscire gradevole al partner. No, ma spiegami però, che vuol dire? Mentre ovviamente con una donna c'è un rapporto di spiritualità, a volte anche no. Cioè, tu con l'uomo sei attivo? Ma a seconda anche passivo. Non è questo il eri, fatto. Poi, eri, il fatto eri. Di non avere il problema di rendersi gradevole. Ah, proprio sei quindi così. Poter tirare fuori tutte le cose, le cose proprio più oscure. Più oscure dentro che uno si tiene dentro. Ma senti, ma tutte queste associazioni, tu non le sopporti, diciamo, arci gay, gente che va in Parlamento per battersi, tu su tutte cose che proprio... Ma torno a dirti, secondo me tutte queste sono delle cose che vengono a limitare la libertà erotica. Ah, perché tu la... Sì, perché sono delle forme di borghesizzazione dell'eros. Sì, che è proprio banale, che proprio te lo fa mosciare, diciamo la verità. La verità è questa, capito Parenzo? Io dico una cosa, se ti chiamo frocio, per esempio, ti offendi, io uso la parola frocio tranquillamente, non mi pare che ci sia da offendersi, no? Dipende. Tu preferisci ricchione, però se ti chiama frocio non... Sai, no? Che domandi a me? Sì, a te. No, certo che non mi devo offendere. E che ne so io? Cioè... È una qualificazione. È una qualificazione, no, perché molti dicono che frocio... È una qualificazione negativa, però. Ma perché è negativa? Chi l'ha detto che è negativa? Ma non è assolutamente negativa, perché pare... Dipende dal contesto, se stiamo ridendo e scherzando con il grande Isotta, con Critico Musicale, e facciamo discorsi alti sull'eros, la borghesia e la rivoluzione sessuale dell'amore, ha un senso. Ma se sei per strada, Isotta passa e uno gli fa, ah, frocio... Vabbè, ma che gli frega, Isotta? Gli dico, sono a me, bisogna anche alcune cose, bisogna il reato di omofobia, per esempio. Io sono sicuro che Paolo Isotta se ne fotte, dice che è una follia, o sbaglio? Il reato di come si fa? Dillo a questi qua, Scalfarotto, questi altri, no, ma per lui. Dall'alto della tua cattedra, da questo punto di vista, senza offendere. Cioè, dillo, il fatto che uno debba avere una pena perché insulta uno è assurdo, no? Senti, ti posso dire una cosa. Dimmi. Quando ero ragazzo, un amico mi disse che era stato con un uomo attivo che gli aveva fatto un bocchino. Sì. E poi fatto che il bocchino aveva detto ricchio vattene. Ho detto tutto. La mia capita. No, in che senso? Cioè, non c'è da offendersi, dice, no? Ah, quello prima gli fa un bocchino, si agghiotta tutte cose e poi dice ricchio vattene. È comico, no? Sì, certo. Come no? Ma quando è che hai finito di fare? Cioè, la strada, per esempio, tu pagavi, adesso questo mi ha sorpreso, tu pagavi addirittura. Certo. E dove pigliavi i quattrini per pagare? Ma sai, per la verità, devi sapere che io avevo un papà meraviglioso, sì, il quale quando io feci 16 anni mi dice, senti un poco, e tu fai una bella cosa, ogni fine settimana mi dici quello che hai speso per i tuoi piaceri carnali e io te lo do. Bah, stupendo, meraviglioso. Noi siamo napoletani. Ma tu hai sempre pagato? Spesso hai pagato per gli uomini? Ma perché mi piace di più. Ti piace di più pagare perché non hai proprio nessun vincolo dopo, no? Sì. Non hai nessun tipo di vincolo. No, non è neanche questione tanto del vincolo, come ti ho detto, perché c'è un piacere specifico nel fatto di pagare, che hanno alcuni, non dico che ce lo debbano avere. No, beh, certo, è chiaro. Allora, ti leggo un passaggio, caro Paolo, di questo libro di cui si discute, che è stato introdotto in una classe, avrei letto sui giornali sicuramente, in un liceo di Roma. Come lettura in un liceo da parte degli insegnanti delle superiori del ragazzi quindicenni, mi sembra, o diciassettenni. Col consenso dei genitori, poi. Beh, consenso successivo dei genitori. Beh, però non è da poco. Allora, un passaggio di questo libro della Mazzucco recita: ficcò la testa fra le gambe di Mariani e si infilò l'uccello in bocca. Aveva un odore penetrante di urina e un sapore dolce. Invece di dargli un pugno in testa, Mariani lasciò fare. Giose lo inghiettì fino all'ultima goccia e sentì il suo sapore in gola per giorni. Il fatto si ripeté altre due volte, innalzandolo a livelli di beatitudine inaudita. Tu lo introdurresti un libro di testo del genere? Guardi, io non lo introdurrei, non perché sia osceno, ma perché fa schifo letterariamente. Ah, fa schifo proprio il libro. Ma perché questa non è letteratura, questa è una povera disgraziata che si arrampica sugli specchi. Comunque, guarda, io ti dico una cosa, io ho, purtroppo a scuola mi hanno fatto odiare i Promessi Sposi, ma dopo sono diventati uno dei conforti della mia vita e io ritengo che i Promessi Sposi e la prima versione del film Lucia siano il romanzo più grande che sia mai stato scritto in tutta la storia della letteratura mondiale. Dal punto di vista letterario, tu un pompino come lo descriveresti? C'è modo di descriverlo? Guarda, se per questo del pasticciaccio di Gadda si parla di questo e di altro, solamente che Gadda è un sommo scrittore. Céline è un sommo scrittore. Per cui meglio questi della Mazzucco, dici tu, no? Ma se non vogliamo neanche fare il paragone. Io questa qui, per la verità, l'ho sentita nominare da te la prima volta, o per meglio dire, ho letto ieri un articolo su il giornale di Veneziani che parlava di questo passaggio. Esatto. Senti, un'ultima cosa, ma Papa Francesco è rivoluzionario oppure una cosa, come dice Giuliano Ferrara, fuori dall'ortodossia che porta la Chiesa chissà dove? Guarda, Giuliano Ferrara ha scritto una cosa meravigliosa in introduzione al libro di Alessandro Gnocchi, una cosa anche di una cultura teologica. Ma insomma, ti piace sto Papa o no? E io devo dirti che questo Papa lo sto esaminando. Ah, lo stai esaminando, vedremo. Ma esiste la lobby gay in Vaticano, secondo te? Boh, non lo so. Sai, sì, è probabile, e i sacerdoti spesso hanno pencolato da questo punto di vista, ma mi importa poco. Ma la cosa più sessualmente più schifosa, diciamo schifosa nel senso più violenta che hai fatto, qual è? Io? Valla a dire, non lo so. Non è che poi faccia chissà che cosa. Comunque, voglio dirti questo, invece... Io provo un senso di avversione enorme per chi? Per i sacerdoti che praticano il sesso. Perché? Perché naturalmente loro dovrebbero essere sposati con Cristo. Vabbè. E allora ti racconto una cosa. Dimmi. Qualche anno fa, una trentina di anni fa, una famiglia molto amica della mia aveva un ragazzo un po' disturbato. Allora, data l'amicizia, senti, parla un poco con questo ragazzo, io ci parlavo. Allora questo mi racconta una cosa che lo aveva veramente scioccato. Cioè? Lui era stato un venerdì sera a battere in Villa Comunale a Napoli. C'era stato uno che gli aveva fatto un poppino, va bene? Sì, certo. La domenica era andato a farsi la comunione e la comunione lui se gliela aveva porta quello che gli aveva fatto un pochino. Questo ragazzo è stato malissimo. Questo è buono. Vabbè, Paolo, grazie, ti abbraccio. A presto. Ciao, presto. Ciao, cara. Non me moleste moschito. I racconti di Paolo Isotta. Guarda che si può parlare però di sesso. Adesso Paolo Isotta ne parla in maniera esplicita. Cioè si può parlare di sesso in maniera alla Paolo Isotta. Diciamo la verità. Noi facciamo parlare di sesso Rocco Siffredi e anche Paolo Isotta. Ecco, no, vedi, però c'è una differenza, c'è Paolo No, Isotta. Guarda, Paolo Isotta ne parla in un modo diverso, certamente perché Paolo Isotta, ecco, e invece c'è gente come Paolo Rocco Isotta. Ho capito, però ho usato dei termini molto diretti, mi sembra, no? Chiari, diretti, comprensibili. Ma lui non risulta volgare. Ho capito, ma io non ho detto che è volgare. Maria da Verona, dai, Maria da Verona. Ciao, volevo dire, tu non hai letto il libro, hai solo estrapolato una frase. Sì, l'hanno estrapolata tutti quella frase. L'hanno ma estrapolata. Come ti permetti di giudicare? Perché i ragazzi cosa fanno? Io non ho giudicato il libro. Non ho giudicato il libro. Io ho giudicato. Esatto. Allora prima leggilo e poi giudicalo. No. E la stessa cosa si può dire di Iva Zanicchi, che è stata molto molto volgare. Sì. Molto più del libro. Il libro è bellissimo. Bellissimo. Parla di sentimenti e di emozioni. Assolutamente. Nessuno dice il contrario, che sia bello o brutto. Non sto giudicando. Prima. Esatto. Non sto giudicando questo. Io sto dicendo che un libro in cui è contenuto un passo di quel tipo non è il caso di introdurlo in una scuola. C'è solo quel passo lì. Che cosa vanno a guardare i ragazzi? Dai, su, dai, forza. Comunque la scuola deve insegnare anche i sentimenti e le emozioni. Sì, sentimenti e le emozioni. Sentimenti e le emozioni, per fortuna non è la scuola che le insegna, è la vita. No. È la vita. A me non mi ha insegnato un cazzo di sentimenti. Volgare quel signore lì che ha parlato. Sì. E anche la Iva Zanicchi. Va bene. Ok. Ciao. Ciao. Armando da Roma. Understand? Armando da Roma. Sì. Sì. Sì, Cruciani, dimmi caro. Io sono molto sorpreso della discesa verso una stile veramente veramente impossibile. Ma di che cosa? Anche stile di cosa? Io vedendo la fotografia mi sono detto, ma come può essere tanto intelligente questa persona? Ma chi ha detto che sono intelligente? Lei non fa altro che parlare di froci e dei 80 euro al mese. Ma veramente sono due cose banale, stupido, sono due... da cancellare. Mi risponda qualcosa, perché a me lei non mi risponde. Io ho 83 anni e sto in un ospedale. Mi risponda qualcosa. Ma stai in un ospedale a fare che? Scusi, questo l'abbiamo capito. Mi sto curando un ginocchio, non il cervello. No, il cervello se lo dovrebbe curare lei. Ma caro, dica da che cosa? Perché lei sta scendendo proprio in una melma che è putrefa, cioè che puzza, capisce? Non sa parlare altro che di froci, e 80 euro al mese. Ma quello è un altro discorso. 80 euro al mese, 80 euro, ne parlo perché è un provvedimento di Renzi, certo ne parlo. Ma lei è banale, Cruciani. Vabbè, allora spenga la radio, non mi rompa i coglioni, Armando, che vuole che le dica? La vedo sulle, ma che c'entra la fotografia? Mi domando, ma come può essere intelligente una persona con quel viso? Ma scusi, ma lei si è visto... Se le dimensioni, sì. Cerchi di tornare Armando, indietro. Armando, ma lei mi manda per favore la sua fotografia via tweet, via internet o via email, se le usa queste cose qua. Guardi, l'espressione di mia intelligenza, le sto parlando da un letto in una clinica romana, capisce? Ecco. Non le parlo da come si dice, da un porcile. Beh, ma chi ha detto che parla da un porcile, Armando? Lei parla come se parlasse da un porcile. Io parlo come se parlassi per strada. E ho capito, allora spenga la radio, non mi rompa i coglioni però, abbia pazienza. No, io rompo i coglioni, io gli rompo la testa, perché se passa per Corso Trieste, sì. Quando passa per Corso Trieste, perché una volta l'ho vista, sì. Io fermo, che gli sputa in faccia. Ma quale sputa perché in faccia? Lei non merita niente. Ma lei, io la denuncio, ma lei è un criminale. No, lei è un cretino. Ma lei è un criminale. Lei è non fa altro che parlare di bambini. Alla radio, bambini. Ma lei se lo faccia fare in faccia un pompino. Dove? In faccia? La saluto, non merita più il mio tempo. Il suo tempo, sì. Veramente tempo è in ospedale sotto le lenzuola ce n'ha. Allora, Anna Paola Concia scrive: secondo me Giuseppe Cruciani è il ricchione, gli piace troppo parlare di sesso tra uomini, per lui non è un'offesa, come ha appena detto Parenzo. Ma io non capisco. Parenzo hai pure risposto alla Concia dicendo no comment, non so cosa si muove sotto le sue lenzuola. Che vuol dire? Ah, no comment sul fatto che sono ricchione. Non commento, non so cosa si muove sotto le tue lenzuola. Ma non ho capito perché. Dice gli piace parlare troppo di sesso tra uomini, per lui non è un'offesa, come appena detto Parenzo. No, lo ha detto come per dire, ne parli talmente tanto che secondo me, cioè secondo Anna Paola. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? E io ho risposto, no come, non lo so, non frugo sotto le tue Laura Matrone, candidata del Partito Democratico a Castel Volturno, buonasera. Ciao, buonasera a te. Buonasera come stai? Ma io pensavo fosse Bene, grazie. Allora, Laura Matrone è stata scambiata per un uomo praticamente, cosa che era prima, dal candidato di Forza Italia, se non sbaglio, al comune di Castelvolturno, giusto Laura? Sì, l'altro candidato sindaco. L'altro candidato sindaco. Invece tu sei semplicemente un trans, si può dire, no? Come si dice? No, scusami, non un trans, ti sei operata. Ti sei operata e sei diventato donna. Sono una donna per lo Stato. Sei una donna per lo Stato. Scusa, ma allo Stato quanto costa un'operazione di cambiamento di sesso? Scusami. No, il cambiamento di sesso lo hai tramite ASL, quindi a gratis, fatta... sì. A gratis. Sì, con un percorso burocratico permette un cambiamento. Ma secondo te è giusto che lo Stato paghi il cambiamento di sesso? Certo, lo Stato paga tante operazioni, perché non deve pagare una retribuzione di sesso, dove noi siamo anche considerati cittadini di serie B. No, vabbè, ma io mi domandavo se fosse giusto che lo Stato... se lo Stato si può discutere, non è che lo Stato deve pagare tutto, se uno vuole cambiare sesso magari se lo può pagare. Senta, ma questa polemica, come è finita? Cioè, il candidato di Forza Italia è finita perché semplicemente il candidato di Forza Italia, dove cioè Forza si è reso Italia conto che tu hai cambiato sesso e sei una donna? No, 20 giorni prima mi aveva corteggiato come gli altri partiti che mi volevano nelle loro liste. Ah, perché corteggiato, avevo capito un'altra cosa, scusami. No, non ti preoccupare, forse perché come tutti quanti dicono, forse ho un cervello nella mia testa, viene considerata sempre una persona transessuale soltanto quella che si prostituisce. Invece fortunatamente dobbiamo ricordare che le persone transessuali finiscono sul marciapiede proprio perché la società non ti permette di andare avanti nella vita e negli studi. Certo. Ma io voglio capire una cosa, Laura, dunque tu sei donna da quanti anni? Dal 2002. Sono anche sposata e sono anche separata legalmente. Non ti sei fatta mancare niente. Non ti sei fatta, cioè eri uomo, ti sei operato nel 2002. Come ti chiamavi operata, prima? Sì. Come ti chiamavi? Mi chiamo Laura, stai conoscendo Laura? No, ma prima come ti chiamavi? No, non te lo dico, tu come ti chiami? Vabbè, ho capito, ma non è che mica un delitto, non sto dicendo che hai fatto male. Non è un delitto, assolutamente, non è una cosa che mi va di dire. No, è per carità, mica ti sto obbligando. Perché non mi chiedi, cittadino di Castelvolturno, cosa bisogna veramente? No, è che adesso a noi alle mutande. Vabbè, ma adesso, ma non ti sto chiedendo che cosa è in mezzo alle mutande, ma stai scherzando, scusa, ti sto dicendo come ti chiamavi prima, se ti sei offesa, scusami, ma non era una cosa offesa. Assolutamente, non mi sono offesa, però tu stai parlando al telefono con una persona che hai conosciuto come Laura Matrone. E certo, siccome tu hai detto non mi sono fatta mancare niente, io ho detto prima eri un uomo e allora mi è venuto in mente come ti chiamavi prima di chiamarti Laura. Non me lo vuoi dire, pazienza, che ti devo dire? Va bene ragazzi, vi devo lasciare, il tempo è scaduto, il caso a Castelvolturno si è risolto perché Laura Matrone è donna, dunque il candidato di Forza Italia forse non lo sapeva o forse voleva giocare su questa cosa. A domani, ci siamo anche domani in diretta da Perugia, Umbria, la mia terra. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe, sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vedi che minchiate che dite, oh.